un microfono, e questo microfono se lo abbasso a te non esce più, a me non esce più, così a zero, fate il conto, così è sempre a zero, e così lo mettiamo a uno, uno e mezzo, quasi due, così è. No, no, Claudio, quando non sei attaccato va benissimo il livello, non toccare niente. Parlo quando sei attaccato a provare a abbassare, siccome come attacchi si solleva anche l'intensità del microfono, a livello microfonico. Abbassarlo un peluzzino appena appena, quello dico. Riprovo. Ah, allora aspetta, eh. Aspetta che abbassiamo il microfono. Ecco qua. Allora, così ho abbassato il microfono, si sente ancora? Sì, si sente, se vabbè, probabilmente roba di riciclaggio, devi cercare di spostare mani da una parte all'altra, il filo, qualcosa, mani piano piano, ma già sono cose risolvibili, non ti preoccupare. Comunque è a 400 e a 1000 Hz il problema, già si risolve tranquillamente, non ti preoccupare, niente preoccupate. Ok, ritorna normale, va benissimo. Vediamo Gianluca un attimino, cosa mi stai dicendo Gianluca? Si accorgi se ci sono toni alti, toni bassi, insomma comunque sia le... la tecnica della modulazione, dai, diciamo così. Cosa stai usando adesso? Cosa stai utilizzando? Un mic normale, con un apparecchino normale, diciamo, da palmo. Allora, è diverso da quello di prima questo? Molto, molto diverso, sì, molto diverso questo, sì. E l'altro, diciamo, che più... c'è anche il doppio modulatore, l'altro, ecco. La radio è chiara, 5, però sei leggermente carente, soprattutto di frequenze acute e di medi acuti. Presenza di bassi e medio bassi, quelli vanno benissimo. Il resto, le tonalità acute sono un po' carenti, per cui sei leggermente cupo. Però la radio è chiara, niente da recepire. Va bene, adesso provo l'altro, mi sento stacco. Cappa. Vabbè, chi è arrivato qua? C'è qualche un altro? Buonasera a tutti quanti i componenti del canale 12, da questa parte Leoncino da qui super, saluta con la buonasera, Candio. Leoncino invece c'ha buonasera, al contrario, lui ha tonalità medie e medie acute e gli mancano un pochettino di bassi. Ma sono in macchina, no beh, sono in macchina io, Ciao. E questa com'è, vabbè? Dimmi, dimmi, visto che stai facendo i controlli a tutti. Guarda com'è questa. Ma Sibilia, tu devi un po' sollevare il livello microfonico. Da sollevi qua, non posso sollevare niente. È un macchio normale questo, da sollevi. Ah, non è un metro, vabbè, non puoi farci niente, ok, lascia così, dai. Comunque è buona anche la tua, simile a quella di coso, di Gianluca come modulazione, anche tu leggermente carente di acuti e di medi acuti, però il problema è che devi avere un microfono che spinge un po' di più per farle esaltare le altre frequenze. Ma i voti devi dare, vabbè, i devi dare i voti, qualità prezzo. Allora Claudio, ti ho detto, tu visto il microfono con questa roba non toccarlo, sei perfetto, livello microfonico ideale e tonalità complete, non hai nessun disturbo, cioè nessun difetto di niente, se no te l'avrei detto, già lo so, è claro. Un attimo che saluto a Leoncino, ciao Giuseppe, ben sentito e ben entrato, eh. Ciao Gianluca, complimenti per quella roba riuscita a coso sulla televisione, complimenti, Gianluca. Ti ringrazio, io sono ancora a vedere il video, me lo dovrò procurare, appena ce l'hanno pronto me lo vedrò anch'io, non l'ho visto ancora, grazie Giuseppe. Cappa. Ciao Leoncino, buonasera, ben sentito anche a te. E poi la ragione di Givolcano, vabbè, io adesso sono passato al 4.40, cioè da 80 addirittura all'MC60 non te ne sei neanche accorto. No, adesso già me ne sono accorto, ancora non eri il 4.40, quando mi ha chiesto il controllo non eri il 4.40, perché il 4.40 ti toglie un pochettino, ti dà più tonalità medio-basse, o 4.30, cosa sia, rispetto a quell'altro baracchino. Ma adesso sono col 4.40, volevo farlo col 4.30 e quando mi è arrivato il controllo perfetto di radio con il tono di 3 e l'HB23. Va bene, vai, e intanto voi potete fare quello che volete. Noi cambiamo, io cambio da microfono, una radio all'altra, non si accorge nessuno. Vieni molto avanti. Questa è un'altra radio, ma già si vede qua. Il bambino deve mi accompagnare, che accompagno il bambino a casa della mia ex, se riprendo fra un po', dai, ciao ciao a tutti quanti. Ciao, Leonci, stammi bene. Sale non c'è. Infatti Claudia che si è un po' sopra popolato. Va bene, che hai ragione tu. Ho cambiato dal piano di tre, quella che avevi detto la isola, e già di me butto a Roberto. È positivo, no, non va quello, va, perché quando l'ho sentito io tempo fa, no, va bene, perché infatti stavo parlando di baracchini, a volte ho detto, un baracchino che sembra non valga niente, eppure, cavolo, ed è un 23 canali, di vecchia vecchia data, ed è a quarti, perché un baracchino a quarti, quello è quarzato, non è, sarà degli anni 80, che anni è, se, pure prima quel baracchino lì, vero Cla? Ok, allora io quando ho comprato la cabina 23 da Pintese Scarpa in via Cavour, che è la prima concessione appunto, l'aveva firmata l'autodottore, l'ha firmata mia madre, diceva sua firma, avevo 16 anni, quindi ne ho 50, quindi ne ho 53. Allora, la paietta KB23 è uscita nel 74. Ti guardo un poco. Dimmi Giorgio. Venga, dai. Adesso sto usando quella che ti hanno detto l'altra volta. Avevo provato qualche settimana fa, ti ricordi? Col più 2. Ah, se SSB50 col pane più 2, ottima roba anche questa. Va molto bene. Qua arrivi benissimo. Non lo senti tu Massimiliano? Guarda, questa qui mi ha fatto dei controlli un paio di settimane fa con Claudio, perché avevo problemi. Quando vado a disarmare? Non è ancora del migliore questa modulazione come microfono, però lo lascio qui, visto che è una radio antica con un microfono antico, ecco. L'ho abbinato così, giustamente, bisogna anche accontentarsi. Bene Roberto, qui si tratta sempre di una radio d'epoca, con un mic d'epoca. No, un'ottima radio anche questa. Pochettino un po' più gli acuti avresti dovuto avere, però a livello microfonico perfetto. Il resto vanno bene, leggermente pochi acuti, però stiamo parlando di cose impercettibili, cose proprio limitate. Va benissimo, ti ascolto bene io. Aspetta che forse per un attimo ti ha parlato anche un attimino Massimiliano. Aspetta Massimiliano, stai dicendo che devo abbassare appena appena? Cosa dici, che così va bene il mic? O era troppo alto? Era troppo alto, in più ti porti dietro un rumore. Sicuramente c'è qualcosa magari acceso lì in stazione, tipo una cosa del genere, hai capito? Aspetta, allora, guarda, io ho tutti i volumi bassi. A parte il discorso delle cuffie che mi sto ascoltando, forse la ventolina di raffreddamento devi dire tu? Forse quella te la porti dietro. Però la modulazione è molto buona. Ma Rasu, ci devi nascere lontano, te. Ma poi tanto ne accogli la lontano c'è roba? Vabbè, sai cosa ci devi fare. Siete ancora più tardi, già provo a accendere e ci facciamo un'altra chiacchierata, dai, vi saluto a tutti cordialmente, devo chiudere e riprenderò bene. Sì, ciao Gigi, buon tutto, dai, buona serata, se devi uscire, se devi fare qualcosa, sono buona giornata per domani, avanti qua. Ciao Gigi, buona giornata, se concilio dopo, altrimenti alle prossime, vai Massimiliano. C'è di Luca però, no, cosa ho detto, devo andare in cucina. Poi io adesso ho acceso un attimino a far riscaldare, ma l'8 50 non ne ho bisogno di riscaldare. Ti voglio far sentire l'8 50, quelle regolazioni che avevo fatto io a suo tempo per la M, adesso vabbè, è sempre uso sempre in HR. benissimo. Sì, no, è l'8.50, io te l'ho sentito, va bene. Yeah, ciao Gigino, ci sentiamo, buona cena, buon tutto. E questo Gianluca cos'è? Come no, la stiamo parlando adesso, vabbè, stai so, Claudio. Ma quello che stavo usando poco fa, Robè, ho abbassato un po' il microfono, aspetta, se no lo metto così. Questo è quello Seax, no? Che ti stava dicendo Claudio, con l'SB, vale SB, tarne più due. Io non so, a momenti sembra che cambia la modalità di azione, cioè adesso sembra che c'è più acuti di prima, o ti sposti un pochettino dalla direzione del microfono, perché adesso sembri un po' più lineare rispetto a prima. Avanti il break. Aspettate un attimino, sì, aspetta un attimo, no, io ho abbassato il livello microfonico perché mi stavo ascoltando con le cuffie e stava facendo un po' di rientro e mi sembrava che stava anche schiarendo un po' la modulazione. Avanti il break. Forse non ti senti a te, questo dovrebbe essere lo fa 44 dal Ghelo, sei tu? Ciao Alfa 44, buonasera, Claudio Sparviero da Sassari, in compagnia di Roberto Quadrato, Massimiliano e Gianluca che ti ha rilanciato, ma non l'hai risposto, non so se lo senti o meno. E rilancio per Massimiliano, io commuto la radio, commuto la radio, anzi. No, ma sto uscendo. Sì, sto uscendo, che cos'è questo? Questo è l'8.50, però non vedo picchi, perché non vedo picchi in modulazione? Ah, sono senza processore. Questo c'è compressore e processore, allora questo è il compressore, eccolo qua, sì. No, è perché in mando naturale io uso questo e quindi lo lascio sempre senza compressore inserito. Per questo c'è compressore e processore. Va bene così? Una bomba, cazzo, poco fa ho detto, cioè il processore fa cazzo, lo stavo per dire, infatti mi ha anticipato. Avevo visto che non c'erano picchi di modulazione e quindi me ne sono accorto. Ma si vede, l'ora 10? 9:30. Non l'hai detto, beh. Sì, io lo sento questo Alfa 44, lo sento Santiago. Santiago 1-2, la modulazione è un po' bassa, però lui ha detto che tra, diciamo, Santa Maria della Palma e Fertilia, mi sembra aver capito ieri una cosa del genere, quindi mi arriva un po' bassino, io per quella zona sono un po' negativo forse, non so se mi ascolti Alfa 44, buonasera. Nuda. Ah, spero, chiamo io, no, io lo ascolto abbastanza bene. Attenzione, Alfa 44, se ascolti qua a Sassari, Roberto Quadrato, avanti. Andrei, Alfa 44, ma il canone attivo, perché deve andare un attimo di un'altra terrestre. Lo senti, Roberto? Comunque, rientrerà. Sì, Roberto. No, no, no, non è cupo. preoccupano. Diciamo c'è più presenza di tonalità medio-basse, per quello ti dà leggermente l'impressione, sono più esaltate quelle frequenze, ma la radio almeno come livelli di tonalità ce li hai, cioè leggermente più presenti i medio-bassi, per quello sembra, ti sembra cupa, però il livello delle modulazioni acute e medio-acute è giusta, se entro i valori. Se è un po' più, come si chiama, cioè più come si chiama, medio-bassi rispetto al normale, per quello ti dà l'impressione che siano, che non ci siano acuti, però già ce li hai, già vanno bene. Diciamo, non so, dovresti fare una regolazione se possibile, magari a cercare attenuanti quei medio bassi, ma va bene così. Vorrei vedere un confronto con il coso, con l'altro, col 4.30, ti dico tra uno e l'altro cosa cambia. Aspettami un minuto, no, che, visto che ho un attimo di break, un attimo di quel Rix che sto saldando. Scappa. Va bene, per tutte e due. Perché invece sta roba, l'ho messo su eBay. Perché mi sono preso 9,40, ho trovato 9,40 a 600 euro, nuovissimo, di pacca di un radioamatore, ogni tanto ci sentiamo, di Cagliari, e quindi lui si aveva comprato una radio da Ico, ma se mi ricordo, se il 756 mi pare Pro 2, se mi ricordo Pro 3, comunque quindi ha fermato 9,40, ci siamo sentiti, me lo spedisce lunedì, e ho messo in vendita questo, perché così non spendo soldi, vendo questo, vabbè, lo ritiro lo stesso con l'altro, però questo l'ho messo in vendita, così mi recupero i soldi, tanto il valore di questo è 600 euro, ma è di pacca, questo è nuovo, di pacca, nuovissimo. L'ha testato a Cimigliano, mi ha dato una controllata, ed è nuovissimo, una grafia, perfetto, internamente, l'ho messo su eBay e va benissimo, lo diamo così. Ho tutte le radio analogiche, tranne il 7004, che va bene, sta lavorando in VHF, in 50 mega, in HF non lo uso mai quello. Quindi se qualcuno è interessato, compra subito a 600 euro, va bene. Ok, cos'è che volevi sentire? Il confronto tra questo qui e il 430 che c'avevi prima, e dimmi una cosa, vabbè, 600 euro regalato, un ultimo prezzo, e 9,40 quanto lo stai pagando qua? 600 euro lo stesso. Certo, anche quello è un regalo, se è buono come mi dici tu è un regalo, quello è un ottimo, bellissimo apparato. Nuovissimo, guarda, usato benissimo, è di un radioattore di quarto, l'ho usato molto bene, siamo sentiti, ma l'ho fatto anche sentire, c'è un negoziato per la cui io l'ho avuto a 9,40, quindi so perfettamente usarlo, so quali sono, ho segnato tutto per non perdere mai le, poi dovendolo riavere, non perdere mai le posizioni, quindi come arriva lo posiziono come lo usavo io, però c'è processore e compressore, ma inserisci solo il compressore dinamico della modulazione, c'è cioè una modulazione strepitosa, adesso riceverò concorso a farla andare, se con l'MC60 o con l'85 o con l'80, riceverò tutti i microfoni che metto, poi vediamo. Sì, questo è un ottimo affare, è quello che avevi visto tu in macchina un giorno, infatti ce l'ho, lo stavo proprio ritirando da Massimiliano che me l'aveva allineato, l'aveva dato uno sguardo, cioè c'era questa scheda audio un po' difettosa, a volte non sollevava il volume, me l'ha messa nuova ciccia, va bene, la radio è perfetta, boh, se qualcuno è interessato, questa è garantita nuova veramente, va molto bene, non solo in AM ma in banda laterale è veramente eccezionale. Poi quando c'è la 9,40 me lo fai sentire. Oh signori, io adesso devo entrare perché devo uscire. Saluto di nuovo a tutti, ciao Claudio, ciao, vabbè, non mi ricordo, ma forse me ne dimenticherò qualcuno, Gianluca, Luca, Massimiliano, l'ho già letto, chi c'era? Gianluca, no, il cazzo sto prendendo le cose, vabbè tutti quanti, abbiamo perso il conto di tutti, sono già mezzo sventiato. Di nuovo a tutti, buon proseguo e buona giornata per domani, ciao ciao. Ciao Roberto, ci conosciamo anche, è entrato avanti la scena. Dalla Lu, buona serata e buona continuazione di giornata, va. Avanti Gianluca, stava salvando Luca. Roberto mi dice se ne è andato, ma Gianluca. Ah, è vero. Tu ma niente, ogni volta rimani per l'orientamento. Da leggero, ma non è là, non lo sai questo 850. Non si sente manco la mosca volare, tutto spento, tutto proprio tutto spento. Vito, attese. L'alimentatore, basta, non c'è altro. Vabbè. Ah, lì la ventola si sente, perché ho i sedenti di la ventola rotta 50. No, una cosina già c'è, là. C'è qualcosina ogni tanto. Oh. Ma 250 o 525? Scusate un attimino, che sto salvando, se le chiamate non possono riprendere. 10 minuti un attimino, Lascialo qui, no, a 431, tra. 431? 431, 273 mi pare. Ah, 273.5, è quello lì che funziona. Sì, ogni tanto mi sento qualcosina, ma non più di tanto. No, anch'io ce l'ho acceso, ma proprio a 25 niente, a 250 zero spaccato. Infatti non consumo correnti io qua, in radio attesi, è tutto il giorno acceso la radio, già va bene, tutto il giorno. Da stamattina quando sono uscito ho lasciato tutto acceso e poi piano piano una a una lo spengo. Sto facendo un sacco di ragionamenti gratti. Ah, per vedere quello MVP4. Aspetta. Lui le può misurare le resistenze, capito? Secondo me c'è qualche resistenza bruciata, ma sicuramente l'ho bruciata io con l'adattatore quando l'ho inserito su 140. Sicuramente. Sicuramente. Perché ho visto che c'aveva un picco troppo alto, poi ho abbassato un pochino il micchigain. E sicuramente ha preso qualche colpo, capito? Vabbè, vediamo un pochino comunque. Non me la metto più, butto, vediamo un'altra cosa, non mi ricordo più. Che... Ah, quello che io sono adesso, Magno. E il Magno con il suo microfono palmare originale, diciamo, la palmo. Perché si attacca il 908, mi fa un'alternata, quindi... Preferisco usarlo così, già esce abbastanza bene, quindi già. Non c'ho altri microfoni da abbinarle. Se riesco a sistemare quello MVP4 lo volevo copiare qua per vedere un po'. Infatti, quello bisogna mettere a posto. E non ne ho neanche altri, cazzo. Non ne ho neanche altri orati. Cioè volevo un MVP5, è graduato. Ma cavolo, vabbè, sarete lavata a Giulio. Solita volta Giulio, e solita va molto bene col Galaxy, vedi? Vabbè, non ne ho altri, sto guardando intorno a... C'ho il 500, in realtà più 3 solo microfoni normali, gli altri sono tutti microfoni HF. E che te ne vuoi dire, Massimiliano? Comunque puoi ce l'hai, per me questo, ma mica a manetta ce l'hai. Sì, c'ho il Mickey Gin, ma secondo me questa radio è chiusa da dentro, per me è chiusa da dentro. Allora, questo è per l'ascolta. E questi dovrebbero essere i vati, credo, No, non è ripetizione dell'eco quello. Sicuro io. No, c'è il power sono i vati, mi sembra, no? Io per i picchi salgo di più qua, ok? Ah, senza piccite, sì. È solito anche il segnale. Lascia la manetta, tutti di lascia la manetta, lo bauer. Ecco, io adesso l'ho fatto. Così, questo qui è per l'ascolto, lo vedi? Questo è per l'ascolto, gli altri sono levati che è al massimo, così. Però non so, non c'è un wattmetro, quindi non so neanche con cosa sta uscendo. Ah, portante bianca qua è a 9, però non so cosa voglia dire nella scala del power. Non me lo ricordo, ma sveglia, però credimi che io l'S9 a wattmetro, con l'MFG attaccato in AM non dava più di 25 watt, te l'ho detto. Poi il manovratore invece modulava addirittura con quasi tutta la potenza in FM. Mentre invece in AM non saliva più di 25 watt, ma non sono pochi, ce l'ho io 30 watt di portante, 50 modulati adesso, quindi per me va benissimo, se 9,25 sono sicuro perché non c'ho strumento attaccato, no? E non lo so la verità con quanto sta andando. Però non è che mi ispira più di tanto, e secondo me questa radio può andare di più, secondo me è chiusa da dentro, come è fatto, credo, Perché sì, i picchi già salgono, ma chi la deve cammellare? Non lo so, però io un discorso che ti avevo fatto era perché l'ho usata, bella radio, compatta, ottima ricezione, tanto che diciamo, la radio è favolosa, c'è una modulazione favolosa, va molto bene, ci sta anche bene questo leggero eco, lo porti benissimo, e il segnale non è basso, considerando che con 4 watt, 5 watt arrivi 9,15, se 9,22, 23, con picchio 25, quindi più o meno dovresti essere intorno ai 25 watt. Guarda, Clara, allora io adesso non parlo, no? Allora, rendi conto, così credo che i vatti siano tutti al massimo. Io adesso sto zitto, mi guardi il segnale e poi te lo porto a metà. Guarda che differenza, guarda. Ecco, c'è stato praticamente quando sei sceso. Allora, così è a metà. La metà come fatte, come lancetta, diciamo, è a metà, e prima era al massimo. Guarda, te lo ripeto, così sono a metà, sto zitto e poi te lo porto al massimo. Ma cazzo, io non vedo nuovissimo, ma ci butto i piccini. Pure secondo me, perché io da qua non lo vedo muoversi. Lo vedo muoversi quando fa così, mi guarda. Allora. Così c'ho un bel più di picchi e sono, diciamo, quasi tutto chiuso, Claudio. Se sei più forte, ci muovi, quando è tutto chiuso, quando è arrivato non ci muovi. No, non lo so, guarda. Allora, così è proprio al minimo, Claudio. Cazzo, eh. Così più o meno sono le ore 8 del mattino, 8 e mezzo, dottor. Allora, qui lo smitter va da 5 a 9, 9 e 10 sale come picco. Ricordo, da 9 e 20 a 9 e 25. Vedi bene che allora questa radio lavora meglio così, con il fatto al minimo che con il fatto a metà, con il fatto a metà così. Sì, si vede là dove si muove, però quando è chiuso lavora meglio, secondo me. È una volazione bella, molto forte, soprattutto quando sei leggermente chiuso, molto forte, ma i picchi sono allucinanti. Mentre invece è tutto aperto, è stabile, sei 9,20 e qualcosa con picchi 9,25, quindi è poco. Il picco di volazione è poco, diciamo che è quasi stabile. Mentre quando chiudi tutto vai da 9,10 a 9,20 come picchi di modulazione. Così mi guardi, qua. C'ho le picche così allucinanti. Sono, per farti capire, Claudio, ha chiuso a due tacchette più su del minimo. Rendi conto tu, tutto il potenziometro chiuso e l'ho portato, aperto due tacchette. Però c'ha dei picchi allucinanti. Io li vedo anche quasi, se comincia non si vede ancora. Bello, perché questo è digitale con l'850 e praticamente si vede proprio la tacca che sale e ti va alla giusta misurazione, capito? Che lo smitter è digitale proprio, il canale a LED è digitale, quindi si vede proprio che segna il 9,10 di portante bianca, poi quando fischi sale 9,20. Invece al contrario va il 9,20 e poi si accende l'altra, quando parli si accende l'altra attacca sul 9,25. Positivo. Ma va così, vedo che lavora bene, va. io ho staccato il doppio modulatore, cosa è successo? Spinge di meno di radio. Spinge di meno, vero? Così invece l'ho inserito. È così, è molto più forte, ma un botto. A metà, adesso sono a metà, e vedo già che la radio adesso ancora. Guarda, così la radio lavora benissimo. Sì, però adesso ti dico anche un'altra cosa, però, eh. Aspetta un attimino. Ecco, così io sono a 5 watt da lui. E me da 5-6 wattometro, guarda, aspetta, eh. Guarda su, se aumenta, già aumenta, niente, perché il livello sul wattometro. Però dal 20, dal 18 se ne va a 35, non ci arriva a 40, 33 ci arriva in AM, capito? Invece a bassi fatti i picchi modulazione sono superiori, cioè sviluppa più picchi positivi a bassi fatti che a bassa manetta. Sì, claro, scusa un attimo, ti rilascio subito. Ma tu, queste 5 watt che vedi, diciamo, sull'upload dello smitter, ti riferisci nella parte alta dello smitter dove c'è scritto RF Power, tu guardi lì i watt? Sì, quando li regolo sì, è logico, sotto il segnale. Sotto il segnale, Massimo, capito? RF Power sono i watt, 5, 10, 20, 40 e 50. E dopo c'è le cose, non ci può pensare, sai, beh. Anche io quando vedo su 40 mi confondo da altri segnali che arrivano in chili. Quindi io adesso, se devo guardare la lancetta nella scala di sopra dello smitter, io sto andando con 7 watt. Le metto a 7, sì. Allora, con 7 watt di portata bianca sale a 25, giusto, sarà blu? Sì, guarda, ce l'ho qua. Questo anche un pochettino in più, eh. E cosa avevo fatto? Aspetta, eh. 5 watt di baracchino? O 5 watt di wattometro? Dai, mi metto al wattometro, li metto al wattometro, però mi risultano 3 sul baracchino. Quasi 30, mettendo però regolazione 5 watt sulla corda qua, diciamo. Comunque, insomma, non prendi più nulla. Aspetta, metti il metto quanti watt la manetta in AM, prova a vedere. Allora, guarda, la portante bianca, provo a aumentare. 15. Ma poi quando modula sale però, quanto sale? Allora, con il watt al massimo, Gianlu, quanto sale modulando? Serio, questo accordatore e wattometro. Sempre gardera aperta, gli 80, 40, 30, 10, 15, 17, 11, 10, 12, tutto va. 160, tutto va lì. Sono 15, quando moduli a quanto salgono? Ecco. 33, a 35 non ci arriva. No, aspetta, scusami. Sì, 33. 30. Allora, il 40 e mezzo, cioè il 30 e il 50, c'è l'attacco in mezzo. No, arriva a 33, 35 watt, Massimiliano, non arriva a 45. 45 sul manno laterale, allora, va, maggio giusto, allora, va. Con 10-15 watt di portante bianca, allora già sono a ragione Claudio, va. Arriva una trentina modulati, 30-35, e 40-45 li dà in manno laterale. Esatto, adesso lo rimetto a 5, guarda. Ok, avanti Eugenio, dai, mi sto saltando la figlia, che mi sono piede a posto, un secondo, ci metto 10 minuti, salgo e scendo, l'ho fatto, se non ci siete, fate una buona carica anche voi a tutti quanti, ciao ragazzi. Ciao Gianlu, ti saluto, perché anche a me mi hanno chiamato a scendere giù, là. Sono tutti arrivati giù e io sono ancora in occhi. Ciao Gianlu, buona cenetta e buon tutto, e sentiamo le prossime, allora, avanti Claudio. Ciao Gianluca, vai. ci sentiamo, ho detto sì, sì, telefono, sì, perché è la prima cosa che ho fatto anch'io con un buon strumento, ho capito, un buon watt, ho detto quello che c'è Gianluca e dovrebbe averlo anche Gianluca, se non è quello lì, lo stesso che l'ho dato Gianluca, comunque sono degli ottimi strumenti, vabbè, ci andiamo a mangiare, vabbè, buona cena a tutti, se coincido dopo. Altrimenti, ma se non ci sentiamo, rimaniamo d'accordo per domani mattina, ok? Va benissimo, Claudio, dai, ci sentiamo, buona carichetta anche a te e alle prossime, dai, se non ci sentiamo dopo, sicuramente non ci sentiremo dopo, dai. A domani mattina, rimaniamo d'accordo così. Buonanotte a tutti e anche ai vari ascoltori che saranno parecchi. Oggi dai, anche a te ti saluto che io sto chiudendo, là. C'è anche Claudio, Gianluca, non so se ti ascolta ancora. Ciao Luigi, io ti ho ascoltato passo a passo, ti saluto che io sto chiudendo, avanti Cla, ci sentiamo. Ciao Luigi, anche io vado a parlare. Ci sentiamo dopo al limite, ciao. Gianni, attento già nello più room se ci sei. Gianni, ok, avete ragione, già un po' usare. Paola, 1, 2, 3 prova. 1, 2, 3 prova. Avanti. Allora, prova tecnica di modulazione, prova tecnica di modulazione. Buona la prova tecnica. Oh, ciao, vediamo come va. Mi sono entrato adesso, vedo, a fare spesucce. Oh, com'è, tutto a posto? Io non sono giù. Va bene? Perfettissimo. Ha migliorato anche la radio, vero? Allora, aspetta un attimino però. Adesso ci stavo ascoltando in cuffia e ti vuoi ascoltare con la radio, diciamo, aspetta, ti abbasso un attimino qui, che sto trovando anche io un mic e devo abbassare le cuffie perché sennò fa rientro, che è troppo forte. Allora, questo l'abbiamo fatto, un altro spezzone ce l'abbiamo fatto. Allora, possiamo attaccare tutti i microfoni inimmaginabili, Yuri, no? Ok. Avanti che ti ascolto, Gianni. Adesso me lo metto anch'io le cuffie, scusa un attimino. Perfetto, sì, perfetto. Allora, va? Non funziona più. Sì, guarda, ti sto ascoltando con la vecchia radio e io lo stesso sto modulando. Ma veramente sono contento, Sono contento che sei contento, già. Finalmente, come lo voglio io, andare 2705 perfetto. Perché stavo lavorando qua tutto quanto, dovevo sapere se era tutto ok, se la radio è troppo forte dimmelo. Io ti sento benissimo, se vuoi abbassare un pochettino, magari si schiarisce un poco, visto che sta uscendo molto forte, e così mi dici anche a me se devo abbassare o devo aumentare. Ma tu sei forte, sei chiaro, va bene, vai. Sto parlando la voce bassa, piano. Proprio bassa, senza gridare, senza nulla. Ti fai abusare in onda? No, paga. Tutto adesso, up, down, tutto quanto funziona. Dai, vada, mi sarà. Bene, male, dai. Non vedo niente di preoccupante. Infatti. Vabbè. Grazie a Fabrizio che è veramente in gamba facendo queste cose. Ehi, visto che mi stai dicendo così, già ti ho detto cosa devo fare, no? Vabbè, mi parlo adesso. Perché lui, diciamo, lo fa di solito agli amici e cose, non lo so se lo fa per lavoro, lo fa per ubbi, magari se c'ha tempo gli occhini, non c'è problema. Lo fa per ubi, non lo fa per lavoro, capito? Vabbè, non l'ho già. Come si dice già? Non voglio disturbare senza niente, capito? Vabbè. Allora, ma prova a chiedere, non lo so. Non lo so se te lo fa. Io l'ho chiesto proprio, ma non lo volevo chiedere, l'ho chiesto proprio perché so che è bravo, che sa fare, so che in questo periodo era impegnato con lavoro, con cose, e non lo volevo disturbare, ma già l'ha trovato il tempo, visto? Vabbè, quando è, non io che lo ho fatto, la fretta non ne ho, già ne ho radio da usare, già la sto usando qualunque, però se si può, una cosettina ben venga. Allora, a me esce bene Gianlu, no, secondo me non devi toccare nulla, esce molto bene la tua, è molto forte, potente, prepotente proprio. Yeah, guarda che sto usando una vecchia radio anni 70, ho attaccato mic da tavolo, non so come mi ascolti con questo mic, Gianni, guarda, vedere. Ti ascolto bene, io pensavo che fossi con quello. No, no, questo è un altro, mi... Allora, guarda, com'è la modulazione? Super potente. Anche troppo. Anche troppo, vero? Ok, adesso attacco l'altro mic, mi dirai se è meglio questo o meglio quello che sto usando, che attacca adesso, la prima. Via. Prova. Vediamo, ok, dai, perfetto. Questo è l'altro, non so se ti piace più questo o più l'altro. Questo qui ha più acuti, la c'ha più bassi, ma sono tutti due belli. L'altro faccio preferisco di più perché è più bello corposo, però sono tutti due belli, ma lo spiego molto bene, sono forti, belli potenti, si fanno sentire, capito? Si fanno sentire. Sì, questo qui è più 2 e l'altro è più 3. Sì, il più 2 c'ha più acuti e il più 3 leggermente tonalità, leggermente medio basse. Ma vanno molto bene, vanno molto molto bene. Un po' stanco sono, oggi ho fatto separato dal lavoro, ho fatto il bagno, sono riuscito, poi sono andato a accompagnare Marco Lì del catechismo, sono ritornato, insomma ne ho fatto un mille di cose, siamo andati a città mercato, insomma oggi è stata una giornata proprio piena piena. E dai, l'hai fatto anche perché mi sono stato che tutto era a posto. Ma infatti ti invito a fare le cose quando sei tranquillo, ma quando sei con la baranoia non era mai vanuta. Smontato già lui. Stamattina ho fatto un po' di lavoretti e dopo di che sono uscito da più. Ah, cavolo. Ma hai detto lui all'altra fondata? Pattuglia. Ecco. Allora, adesso sono già ancora. Ok, ha ragione, quello era il ok, provo a sollevare un po' la modulazione. Come va? Va bene. E ok, dai, provo un attimino, vedo un poco. Sandrino, cosa ne pensi? No. La batteria la sento tutta quanta amplificata, tutta quanta, forse perché siamo vicini, dai. Tanto, ma io posso anche abbassare, sa, vedi? Un attimino, provato a... Ecco qua, guarda. È chiarissimo, qua è chiarissimo. Ehi, amici, Sandri, io più di così dopo il microfono non esce, eh? Sì, ma ti fa questa popolazione schiacciata, Gianlu. Aspetta, allora, guarda. Facciamo così un attimino, vediamo un poco, si è chiarita, io ho levato il doppio modulatore, vediamo un poco, inserendo il primo doppio modulatore. Ecco, come ti sembra? Senza doppio modulatore te la schiarisce, capito? Quando vai a attaccare il doppio modulatore, allora va a comprimere e te la schiaccia, magari è questione di regolazione. Siccome col doppio modulatore uso quel palmare che tu sai, con questo ho un microfono che non è amplificato, adesso questo qui è più 3, sicuramente è meglio mettere così e magari aumentare leggermente l'amplificazione. Il mic image l'ho portato al massimo, volevo solamente avere la regolazione del mic microfonica, ecco. Ma se per caso conviene anche abbassare un po' il mic image, vediamo un po', portando magari il mic gain a metà, ecco, e volendo aumentare l'amplificazione. Sì, siamo sempre lì, dai. È questione magari di timbrica di mic. Di timbrica di mic. Va bene. Gianni, hai cambiato? Cosa ho cambiato? Hai cambiato apparato? Non sei col solito. Ho solo questo qua. Ehi, capai, no? Non ti me ne sono accorto, Non ti piace, ho capito, non ti piace. Adesso logicamente io preferisco quella modulazione con... adesso non mi ricordo se era con Cass o S9. Esatto, ti fa questa modulazione bella, chiara, pimpante, dai. E va bene, dai, comunque, già va bene lo stesso. Vabbè. Ora timbrica la voce, si sa, no? La mia timbrica è questa, eh. Allora l'apparecchio è bene. Sì, capri, magari anche la tonalità della voce, dai, che incide. Va bene. Passiamo. No, diciamo che secondo me io ribadisco sempre questo. Abituati a sentirlo come lo sentivamo, adesso giustamente anche l'orecchio deve farsi si abituare. Vabbè, no, c'ha questo effetto, c'è un effetto diciamo amplificato, sì, però non, vabbè, adesso magari inizialmente, magari farsi l'orecchio. Senz'altro, certo, dai. Io lascio così, Sandro, senta, oppure metto il doppio modulatore. Ecco, col doppio modulatore come ti sembra? Bene, dai. Va bene, considera che siamo anche vicini, quindi. Gianni, va benissimo, lascia perdere. In lontananza va bene. Essendo il mic amplificato, ecco, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, ecco, la fa più chiara, ecco. Adesso ho anche passato anche Fabio. Prova, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Per me, guarda, io mi sto ascoltando in cuffia, non so come mi riceve il tuo Gianni, potevo anche mettere un po' di eco magari. Senza essere troppo invadente, ecco. Rimane un po' simpatico, diciamo. Lascialo così, Gianluca. Per me va benissimo, è tutti voi. No, non so come faccio a sapere a dire che non va bene. io ti ascolto in cuffia adesso in questo momento e arrivi benissimo. A me va bene, va molto bene, anzi, la voce chiara, limpida, ecco. Avanti. Buonasera, chi è, vuole entrare? Sì, ciao, io sono Luca, sono da Porto Torre, stiamo solamente modulando. Arriverò a Santiago di 7 qua, per radio 5, va benissimo. Va benissimo, se sei quelle zone lì stai arrivando benissimo. Ti mando un altro corrispondente che c'è qui nel mio paese, a Porto Torres. Ti mando Sandro, avanti Sandro. Ehi, chiappa, buonasera, ben ascoltato, vai. Sandro, qui Porto Torres, volante. Ok, sì, ti ha, diciamo, il tuo rapporto Santiago di 5 a 6, la radio, diciamo, è comprensibilissima. Avanti. Non ho capito, lasciare del bianco? No, no, va benissimo, stai uscendo qua, ma anche va benissimo, se sei in quelle situazioni lì va benissimo. Ti manda Gianni, Gianni si trova a Fiera, si trova a Sassari. Avanti Gianni. Ciao, un po' da ben sentito per verità, dai. La parte mia, Gianni Doppio Rum, quello che si è attraversato non ci credo. Gianni, quanto ti arriva a te? Santiago 9, e allora dalle tue coordinate, perché a me mi arriva su tra il 5 e 6, dai, allora dalle tue coordinate. E io, vabbè, giustamente, non è che non sapevo neanche con quale, se sono potente o non sono potente, però quando tu mi hai detto Sandro il tuo segnale, è presso poco lo stesso, visto che siamo più vicini. Noi due, Gianni, insomma, cominciamo a riceverla la più forte, allora dovrebbe essere messo quelle zone lì. Pericapa? No, perché noi Casa Sardo ce l'abbiamo poco aperto, ce l'abbiamo abbastanza aperto, capito? Non abbiamo ostacoli per Casa Sardo e quindi magari per Gianni era un po' chiuso, ma non più di tanto, quindi se a Gianni gli arriva 9, a noi ci arriva 5 e 6, comunque diciamo, va bene ugualmente. Sì, accettiamo lo scherzo, non c'è problema. Avanti Antonio. Ciao Antonio, ci sentiamo, buonasera. Allora lì c'è in alto, quello che ho appunto passato. Va bene Antonio, da risentirci, stanno bene, buon fine settimana. Avanti Sandro. Ciao Antonella, no, ignoriamoci, non è che ne facciamo la storia, era giusto così una valutazione simbolica, niente di tanto. Ciao Antonella, per ascoltata, dai, magari alle prossime, evidentemente diciamo che per Gianni Assassino è magari più favorevole, va bene? Io per la zona di mare, tutte le zone di mare per me fanno bene. Vale anche l'isola Borsa, eccetera, eccetera. Ehi, capa, dai. Ehi, va bene, già, e anche noi, diciamo, qua siamo abbastanza aperti, diciamo, dai. Casa Sardo, Isola Rossa, tutte quelle coordinate, evidentemente, magari, la tua posizione è ancora più aperta. Questo lì. Dai, signori, vi lascio che mi hanno chiamato per la carica. Dai, alle prossime. Ciao Gianni, ciao Gianlu. Ciao, ci sentiamo, avanti Gianni. Ciao Sandro, buona carica. Gianni, dai un secondino, un attimino che ti preparo. E anche io ho bisogno di un secondino che metto il pigiama. Ok. Allora, ci sei? Sì, già sono qua. Pigiami non messo tra. No, io me lo sono messo qua, adesso qua. E li ho chiuso, già. Tanto. Domani mattina io devo fare anche presto la pizza. Dovevo lavorare? No. Aspetta un attimo, però Gianni, provo a piacere di modulare un attimo. Ma qui è tutto un altro sul microfono, eh? Si sente un bel alto del cuore familiare. Ma non mi ci sono stato. Vediamo. Ci sono inserito? Sì, sì. Lasciami. Sì. Sì. Sento benissimo, eh. Mi chiedi che era Massimo? Gianluca, è un croce della luce. Si controlla perché è proprio un metro sempre. Allora, chi è il Massimo? Sì? Tu a mettere appena appena più faccio. Chi beva? Modula e passa la pena appena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Cosa mai è bassa? Io ti sento sempre bene, guarda. Che fai che come va? Come già? Aspetta, aspetta. Ti vuole avere? No, hai aumentato la potenza troppo, Gianni. Così va bene, eh? Così va bene, non aumentare troppo se non va saturazione. Lo so. Ma lo fanno questa parigi, aspetta. No. Non parlare. Così va bene. Così va bene, già. Se non fate più si sente un bel, un bel, un bel. Lo so, ma anche la temi è così. È proprio il microfono è così, è forte. Ah, io non sono con quello, Gianni. Io sono con un macchio palmare, adesso non so che c'è il malacchinetto. Casta mutua. Già lo so. Ma quando moduli con l'MC60 si sente tutto qui. Tu magari se non hai la camera a parte qua c'è gente che entra, che esce, capito? Io sento tutto quello che sta succedendo lì. E lì già non è nulla di male. Sto vedendo. Ehi, segnale com'è il mio da te, da Gianni, con questa radio, che sto provando questa radio normale. No, vai. Semplice, liscio e recoaro. Ok, questa è una modulazione, diciamo così, naturale. Il segnale per te, Santiago 8, radio 5. Sì, sì, va benissimo, mettiamo adesso magari in maniera positiva, come si dice, frizzante magari, senza esagerare, ma comunque sia, leggendo semplicemente un po' frizzante, com'è? E la base 9.5, Gianluca, cosa fa? Ho sollevato appena appena il pomello. Allora, la marcia. Via. Il pedalo. Per la giustizia pedalare. Via. No, c'è bisogno che mi ascolti anche tranquillamente normale, mi aspetta. Ma infatti la modulazione è bellissima anche quando sei normale. E ha leggermente di eco, appena appena mi... E questi macchi sono sempre di eco, a me piace non bene. Quei macchi lì vogliono conservarti. Bisogna usarli ogni tanto e conservarli gelosamente perché vanno tutti bene. Anche quello che ha fatto Giampaolo, quello lì pompa forte. Sì. E questo è simile, dai, questo è 300. Quello lì secondo me è stato modificato anche quel microfono, non è originale originale. Secondo me l'hanno messo. Hanno fatto qualche lavoretto, l'hanno potenziato in qualche maniera. Ma di quale stai parlando? Di quello che ha fatto Giampaolo? Sì. Può essere che l'abbiano fatto qualche cosa, ma è un'altra struttura di microfono, perché c'è due potenziometri quello. Sì. C'ha praticamente uno dei toni e l'altro del volume. Abbiamo invece questo qua c'è solamente l'amplificazione e l'eco, però la ripetizione. Quell'eco quella lì la devi regolare da dentro. Adesso mi abbasso per il volume perché mi stai assordando. Pare no che ballo Gianluca, va bene, va molto bene. Ma anche le S9 va bene, solo che io sono del parere che se tu devi stare a regolare, a fare, è meglio che lo lasci col suo microfono e ci vedi tanto cosa sai e lo usi con tutte le sue funzioni, capito? Sì, sì, no, guarda, Gianni, io sto parlando anche abbastanza moderatamente come voce, perché insomma, è un orario anche, vabbè, non troppo contenuto, ma... Tranquillamente c'è la TV accesa da un'altra parte, però il microfono è rivolto verso di me, la TV è molto indietro e niente, questa è una radio americana, questa è lo Skyfer, questo Spiker 9 americano, con abbinamento con questo M300, tutto lì. Sì, sì, va molto bene anche questo. E se si fanno bene gli abbinamenti, guarda, anche i baracchetti piccoli, io ne ho visto uno che è molto curioso, mi sa che me lo compro, da Fusano. Guarda la Lafayette, è bello, un pacchetto di sigarette, Giacomo, quello lì è bello, a mettertelo in moto. sì. Ma guarda, con un attimino piccolino, tipo quella che avevo io prima di montare sulla la Turbo 2000, la 2001 lì, io c'avevo quell'antennino, quella con la spirale, che c'aveva anche quella regolazione delle cattenarie con quella rondella, con quel rondellone lì, quella lì è piccolina, non ho, si può montare, devi fare il piano di massa però, se lì nella fronte per esempio avendo fatto le parti in plastica è un po' complicato. Non è vero. Allora, la mia volta io l'ho già piazzato l'apparato e per chiedermi al quadrato, una volta sono salito con l'antennone di 2 metri, l'apparato piazzato e praticamente l'antenna dietro. Allora, ho tolto il bauletto, nei ferri del bauletto ho attaccato la base magnetica e andava alla grande. Ah sì, una cosa così di salvataggio, diciamo. Ma pensavo volessi mettere anche una pista, anche insomma, che risulti anche abbastanza una cosa ordinata, non scandalosa, capito? Vedete, della moto che ho io, non lo so, magari mettendo le mosse dietro e mettendo l'antenna con una staffa che va un po' al centro dove c'è il faro dietro sopra, fatta una cosa anche in acciaio carina, si potrebbe montare la radio dove c'è il manubrio, mettendo anche il parabrezza piccolino, allora sì. E so che il moto già arriva più che davvero, ma non puoi modulare. Io c'ho anche l'attacco a CDC, nel cruscotto, quindi ho messo la corrente con l'attacco a CDC. Perfetto, sì. Ma forse la stai bene meglio, anche per il discorso che magari puoi utilizzare anche il discorso del bauletto, un esempio sto facendo già. E il discorso del bauletto, invece di mettere il casco, potresti mettere anche una batteria di supporto da 45 ampere per le quadrate che non sono tanto grandi, installata lì portando un filo della batteria della moto del positivo, attaccandola lì a quella tua batteria, che te la mantieni sempre in carica anche quella. Sì, ma la batteria che ho va bene, andata bene. Uscivo tranquillo, mi sono fermato al quadrato, ho parlato tranquillamente. Solo che in moto cosa anni fa, non, più che la forma non la puoi usare, non ti vogliamo modulare quando si cammini, no? Ma ti viene a cogliere tutto tanto lui il rumore sottofondo, non è così, infatti, non è come quando sei in auto. Già. Non lo useresti, ecco, sì, è bello vederlo, ti dirai, ma da poi non lo tratti. L'utilità non c'è. Io ho visto con le Division, praticamente ce l'ha incastonato proprio il baracchino. E c'hanno i ricaschi con i microfoni per parlare senza toccare l'apparato, capito? Parli così, tranquillo, lui va bene, ti mi va a voce. Sistema box, Gianni. Sistema box con l'auricolare e il microfono nel casco, capito? Oppure magari la portante hanno un pulsante lì dove c'è il manubrio con un bottone tipo dove c'è il via luce, quella cosa lì magari, no? Schiacciano, mentre stanno guidando schiacciano, il microfono che rimane come un arco all'archetto, con l'archetto vicino alla bocca e dopo molla, l'auricolare ascoltano. Per esempio, sarà sicuramente una cosa del genere. Sì, mi sono avvicinato a quella, perché l'ha portata la Masa, l'ho portata la moto a fare il tagliando l'altro giorno, sono andato a ritirarla, no? E c'era questo qua che c'aveva le ore di viso. E mi sono avvicinato a quella, perché lui sta bella lucida, ecco. La testa che vi ha fatto vedere tutto, ecco, quella c'è anche il baracchino, sì, io l'ho usato 2 o 3 volte, non di più, ma già ce l'ha, siccome c'è un collega che ce l'ha lo stesso e quando usciamo a fare il motor da lui così 4 volte la accende e 2 o 3 volte ce l'abbiamo usato, io ce l'ho da poco, questa volta ce l'ho presa seconda mano. Beh certo, ma bisogna stare attenti, cioè guidare attenta la strada, e la racchina va giù, se il telefono è il cazzo, non preso. Beh, anch'io sono del parere che quando guido una motocicletta mi dice cazzo ti ho salutato, in macchina la prima volta ti ho salutato e non mi hai salutato. Io questo poi non vi ho fermato perché quando guido io sono incollato sulla guida, non guardo nessuno, a meno che sia fermo, allora sì, ma se no sono incollato sulla guida. Sotto la radio, modulando, guidando, insomma. Vabbè che io già tengo il microfono, cioè non distolgo lo sguardo dalla strada, ecco, capito? Però, vedi, bisogna sempre stare attento, un conto è guidare e basta, un conto è anche la musica, per ascoltare la musica, anche uno dice, ma adesso sto guidando la musica, e vabbè, sono cosettine che magari... per una giornata magari di stress, di stanchezza, associate a questo punto, a queste cose qui, magari una stupidata, fai una cazzatina, dai. Vabbè, no, ma io quando guido sto attento, anche quando modulo, il microfono ci va sul sedile e cose, schiaccio e basta, sto sempre guardando la strada, non è che... tranne qualche volta che me lo avvicino, magari c'è qualcuno da lontano e me lo avvicino, ma sempre guardando davanti e non mollo mai io lo sguardo, perché non so per cosa, questo è un amico mio, gli è caduta una cosa, è andato a inchinarsi come sempre, si è trovato a guardare davanti, grazie di tutto un rosso. E allora? Guarda, quelle lì, oppure magari d'estate ti mettono una festa, una cosa, un'ape, che tanto anche io a fare la catalonga, trova subito il primo posto, ti fermi e fai quello che devi fare. Sì, ma adesso sì, a me mi è stato messo che pantaloni, Gianlu, cazzo, un bruciore, tipo un accendino che ti brucia con la fiamma, cazzo, una cosa lucina. Allora, stavo per uscirci fuori strada, mica, stavo controllando il pantalone, qualcosa, un dolore lancinante proprio. Ora, intanto, se ti trovo poco che magari sia un po' allergico da queste cose, bisogna stare attentissimi. Ma vedi, la festa, un latte, cazzo, sembra una cosa di niente, un dolore, va. Se ti vengono le scioccole affilate ci rimani pure, io ho visto uno scioccole affilate qua al mare di questo tipo che l'ha appunto la vespa, ha cominciato a cavare il babbo, la bocca, coso, subito, cazzo, sono intervenuto, ma ce l'ha accorto subito. E niente, l'abbiamo subito portato su alla rotonda, meno male, l'abbiamo portato su dove c'è la guardia medica lì e... ci hanno pensato loro, gli hanno dato i medicinali adatti e gli hanno fatto passare questo sciocco anafilattico che aveva. Però basta una puntura solo, se sei allergico guai, ti fai gonfio, cominci a buttare bava, come quando avvelenavi il cane, ce l'ha presente. Sì, specialmente quelli che sono epilettici. No, perché sono... gli epilettici hanno problemi di questo genere, di sciocco anafilattico. Guarda, io una volta l'avevo portato uno con l'ambulanza, poverino, infatti aveva quei sintomi lì, proprio si è tutto irrigidito, poverino, mi mesi di raggiungere un conto, no, mi sono un coso, Maria, una volta da poi uccinante, e poi mi va a matesco. Allora, quello potrebbe essere anche un attacco isterico, un attacco di nervi proprio. Ma è successo anche a un'amica mia che praticamente va a uscire col ragazzo e lui gli ha detto che doveva studiare, che non usciva, poi siamo andati in piazza con questa amica mia insieme e poi ci ha fatto un bizzino con un'altra bizzina abbracciata. Ed è venuto l'attacco di nervi così, mi si è attaccato addosso, Gianluca, una cosa, le lacrime, c'avevo la maglietta d'accosto, quando non sono più usciti i segni delle lacrime, ma te li mangi. Ho dovuto portare tutto soccorso, ho dovuto fare due iniezioni perché ci stava per rigidendo, le mani si sono tutte aggruciupite, il collo, non mi muovo più, non riesco più a muovermi. Una dose dopo ero da solo, no? Perché la giocare in macchina, via, dove stavo sperando. Faccio aspettare. Però per te la vedo veramente più bugia. Non prenderò mai l'orario. Oh, lì l'ho visto anche, non è ancora fisso. Io mi gioco drummi da base di Max. Quelli che comprano i locali. Ma quelli ne fanno di affari e secondo che cosa trovano di locale con la roba del cedro, poi in America li comprano tutte le armi antiche, tutte queste cose qua, soldi antichi, comprano tutto. Se ne roba bella vero? Oh, yeah, yeah. E comprano questi magazzini all'asta, no? Loro aprono e trovano la sorpresa. Se ti va bene, se ti mira bene la strada. Se ti va bene, capito, guadagni bene anche. Ma tu l'entità di quello che c'è dentro non lo sai, così? No, non lo sai, è a sorpresa. E all'asta, no. Vendiamo locale con pieno di roba. Ecco, chi offre di più? 100 dollari, l'altro offre 110, l'altro 115 e così via. Però chi offre di più gli danno il locale, gli danno le chiavi, lui apre e praticamente quello che trova dentro si vende. Però magari ti giochi 100 euro, ne guadagni altri 500, capito secondo me? C'è uno ha trovato una moto che la buttiamo a voce motore primo corpo, ha trovato una macchina che andava di quelle di tipo motoscafi con le, che hanno la ventola grossa dietro, che vanno nel coso, vanno nei laghi, nelle paludi, eccetera, eccetera. Cazzo, ci ho fatto un bel di nave, sono qua. Ah, sì, sì, quelli a specie di... Cosa cavolo sono, messo le coccodrilli passano, non mi sa specie di... di ventola, manna, manna, cosa li dà, un po' un capisci, volano. Quelli lì passano, sembrano motoscafi, ma non è definito che cosa sia, perché sono scheletri di motoscafo. E vabbè, comunque quello ce l'ha venuto un bellissimo, sono d'accordo, si aveva guadagnato per fare tre volte più di quello che ha pagato all'asta al magazzino. A volte guadagnano anche 10 dollari, 50 dollari in più, dipende. Ma sono gente che lo fanno spesso, capito? Si guadagna un bel po' di soldi, secondo cosa trovi guadagni bene, capito? Dipende da quello che c'è dentro. Adesso per dire oggi, quello che ho visto io, ha trovato una macchina antica per arricciare i capelli. C'erano queste cose che si attaccavano ai capelli, poi dava una specie di scossa con la corrente e ti faceva i capelli ricci. Come magazzino pure di Dandere, quello di Dandere o lo locale? Tutto quanto, locale è quello che c'è dentro. Quindi le mura stai parlando tu? Tutto via, tutto quanto, apro il locale, tutto dice di vendere, tu si rivende. Il locale rimane a loro, penso, e loro comprano tutto, capito? Tutto il locale è pieno di roba. Capito, sarà merce magari che hanno fatto di sequestri e cose del genere? Alimentari, capito? La stessa cosa che io bido, magari un magazzino di due acciappo tutta la prestatura d'uria, di moto, di cose, tutto quello che c'è dentro, ma non vengono mai, magari non me l'affitto, ti busso di e ti fai tutti questi soldi, capito? Sì, sì, sì, ho capito. C'è che magari che non riesce a pagare, se questo non è tutto, però è di fare un'asta. Magari di due di dove guadagna. Ho capito, sì. Però ho notato, Gianluca, che in questi magazzini ci sono cose che risalgono proprio a vere antiche, capito? Tipo macchinari, hanno trovato un'attrezzatura da chirurgo di quelle proprio di chisci antichi, da antiche antiche. E praticamente questa attrezzatura qua ce l'hanno venduta in questo negozio dove ritiravano roba antica, ci hanno fatto un sacco di soldi, mi pare che 3 o 4 volte di più di quello che avevano pagato loro per avere tutto il magazzino, solo da questa attrezzatura, perché valeva un bel di soldi. E ha detto che è un'attrezzatura di precisione, proprio di quella professionale. Dopo magari erano anche roba antiquariato. Ma era tenuta dentro questo cofanetto fatto in quella pelle lunga, ce l'ha presenti? Come guardare i buoni macchine fotografiche prima? E custodi? Sì. Ben tenuta, bella, risaliva all'800, una cosa del genere. E quella aveva pagato ben bene, poi c'erano un fucile praticamente un fucile che mettevano al cimitero perché praticamente c'erano i ladri che aprivano le bare, si rubavano le scarpe dei morti, si rubavano loro i denti loro che ci avevano, tutte queste cose qua, no? E poi prendevano i morti, li buttavano in terra e se ne andavano. Hanno messo questa specie di cannoncino piccolino con uno spago lungo. Quando i ladri entravano di notte a rubare, inciampavano in questo spago tirava il cane e lo faceva sparare. Cazzo di beni di sigaro. C'è allucinante, una trappola infernale. Un cannoncino, ce l'ha presente. Era tipo un cannoncino piccolo, un miniatura. Quello lo mettevano all'entrata del coso, quando i ladri entravano di notte, inciampavano in questo filo che era collegato a questa cosa e sparava, boom! E l'hanno voluto provare per vedere se funzionava, ha funzionato, ce l'ho messo la polvere da sparo dove si metteva, hanno messo questo spago legato al coso, uno ha fatto un vita di inciampà, ha tirato, boom! E pum, cazzo di aggarurata! E si va per ammazzarle, risaliva a tempi antichi e poi sono andati a controllarla per vedere se si era deteriorato o con lo sparo. Non si è fatta una filatura, nulla, più solido, ha detto, come materiale, non si è fatta una filatura dopo tanti anni senza usare, senza, ha funzionato, si è conservato bene. L'ho provato col tipo che praticamente glielo doveva comprare, no? Questo che va a questo negozio antiquariato. Stasera avrà voluto provare. E gli ha tirato? E gli ha voluto provare, usare. No, al cimitero. Ha detto che era il suo posto. Quando ha visto che sparava gli ha aumentato il prezzo. Ah no. L'ha avuto controllato, dice che sicuramente quello lì era stato fatto anche artigianalmente. Col coso di legno, ha detto che poteva essere, il carro poteva essere di un vecchio fucile, roba del genere. Però, una cosa luciata, il picchiare da bordo da sparo, poi attaccato al coso del grilletto c'era lo spago e via, faceva parte del corpo. Sì, un macchinario autocostruito, capito? E un antifurto di chi raspicava il noce. Dice che cazzo rubava le denti d'oro dai muti, ne tirava le denti d'oro. Poi i bracciali, tutto quello che gli lasciavano, scarpe, perché solitamente mettono le scarpe a nuove, no? Cazzo, ma io sono un viaggio di vera. Lo schinizzavo a cazzo, ma se parlare molto lontano, già lui rubano i fiori da Rettome a Sassari. Ma io dico, che atto fai quando tu vai da una tomba di un altro a rubare i fiori per metterlo nella tomba del tuo, dei tuoi parenti? Che atto fai? Certo non è un atto, un buon atto che fai al cimitero a rubare i fiori da un altro per metterli. Io non so che cosa ho fatto, io quando li prendevo per mamma e cose, che vedevo che qualcuno vicino non c'era fiori, a volte li diffidevo, quello sì che l'ho fatto. Sì, ma l'ho fatto la parola, non è che li bisogna, ma sono tutti uguali già. altri sono tutti uguali, per me, per come la penso io. Sì, sono tutti uguali, sì. Ma per dire, ci sono persone come può essere mia sorella, adesso no, dal marito non ci può andare perché purtroppo te l'ho raccontato, e sta male, quindi non può andarci. E quando capita qualche fiore glielo metto anche io, ci passo e coso, perché anche eravamo molto amici con mio cognato. Però c'è una signora che ha la tomba vicino che gli mette sempre i fiori. E mio padre, prima di morire, gli aveva regalato un bracciale, cazzo, un bracciale d'oro, ma a livello grosso però, ci aveva tre strisce, una d'oro bianco, una d'oro rosso e una d'oro giallo. E poi c'aveva un brillante grande sopra, un bracciale che valeva un bel di là, infatti mia sorella, non mia sorella si è adirata, perché ti ha fatto una cosa troppo grossa, potevi fare qualsiasi regalo, però cazzo, quel bracciale valeva un bel di soldi. Io te glielo ho voluto regalare, la di mamma quel bracciale, mi ha regalato quel bracciale lì, perché gli metteva sempre i fiori all'incola, capito? Ci ha guadagnato con bracciale di sagato bussava, una cosa molto, era una cosa, diciamo, un bel ricordo, perché questo bracciale era stato regalato a mia madre da una signora che era malata, affetta da tumore, e mia madre andava anche di notte a mezzanotte, lui abitava nel mio palazzo, a fare le iniezioni di morfina. Quindi prima di morire questa qui gli ha dato questo bracciale a mamma, capito? Che gli ha già stato prendendo con l'acqua. E quindi ha tutta una storia, questo bracciale, questo passato a mamma. Poi mamma quando è morta mio padre l'ha voluto regalare a questa signora, che è stata sempre molto gentile, la verità, gli metteva sempre i fiori a mio cognato e cose. E per riconoscenza mio padre gli ha voluto fare questo regalo. Hai visto? Sono cose belle, sono delle belle azioni, diciamo. Sì. Poi quando sono spontanee specialmente, che non vengono comandate, cose. Quando per dire, Nicola, vabbè, i fiori ce li ha sempre perché me li avevo messo anche quelli finti e cose, quando ci vado io al cimitero qualche fiore glielo metto anch'io, però capito, lei magari ha visto che c'erano solo quelli finti e gli altri erano secchi, per me va ricambiato. E mia sorella purtroppo quando ci poteva andare ci andava, ma adesso non può, quindi c'è chi pensa per lui, no? Purtroppo già la situazione è quella che è, purtroppo per forza maggiore. Allora, adesso mi c'è solo il figlio che può mettere i fiori e cose, però se non lo porta nessuno non c'ha macchina, non c'ha nulla, quindi anche lui poverino non può andare da solo. Poi, mamma mia. Se la tante volte pensi, ti fai conti della vita e cose, da lui tutto in un momento crolla, capito? Crolla tutto l'altro. Certo, imprevisti, è vero. A vedere come ti devi dare una conto le cose più semplici e banali che non abbiamo preso, così erano insignificanti, invece diventano di un'importanza, di qualcosa appunto che quando manca, si accorge allora il vero valore delle cose. Beh, certamente che sì. Un esempio banale, cazzo. Anche le cose oggettive, tipo l'acqua, quando ti manca l'acqua, cazzo, te le accorgi. Se non ti manca sembra una cosa normale, cosa. Ma se ti manca, che non ti puoi lavare, non puoi dire, non puoi fare nulla. A voi che ti manca? e il servizio è subito il disagio. Infatti è normale, una cosa scontata che quando non vedi accendi la luce, per esempio, no? Appunto ti dice acqua le mani, apri il rubinetto, la diga ne faccio i travagli, ma comare no, è mancata nel tardi pomeriggio, diciamo, subito dopo, ho fatto arrivare da lavoro alle 2, facendo la luce e mancando l'acqua, quello che l'hanno rimessa la sera tardi, ma l'importante è che avevo fatto la luce, che ero tranquillo e via dicendo. Quindi non so il disagio che non vai levando il rubinetto, cosa vuol dire? No, ma che lui ha me. Vabbè, da noi è più difficile perché abbiamo l'autoclave, non bene o male ce ne accorgiamo molto poco, ma a casa di mamma mi ricordo che mamma faceva le pluviste, riempiva tutta la vasca, era vasto di terra che rimaneva nel fondo, buia, la terra che non deve ciò di vera, che lo depositava, una cosa allucinante, e riempiva i bidoni, eccetera, eccetera. Almeno quella lì la utilizzava per buttare le vasche, capito? Ma come stai parlando, Gianni? Con Gianni. Non sento radio, io c'è il segnale, ma non sento radio. Un po' faccio, lo sento anche adesso, deve essere che per lui si allontana, però. Non sento radio. Perché ho abbassato il macchinino? Cosa? Ho abbassato il macchinino. Lasciato Marchini, era il problema che Marchini a zero, dovevo sollevare tutto il volume per sentirti. Se l'ha passato troppo già, prova a metterla a metà. Ma cosa l'ha lasciato fare Marchini, non ho capito, boh. E se ha troppo il momento ancora? Prova adesso. Aumenta ancora un po'. Prova adesso. Io non sento l'aria, c'è qualcosa che non mi convince, ma il processo è attaccato. Gianluca, come mai non te ne già avvisato che non scendi? Ma lo sai cos'è? Che io c'avevo il volume un po' alto, lo sentivo bene. Come ti sei tradotto, ma ero in bombata, ti ho lasciato tutto frugato e lo sento basso, capito? Però io, essendo che stavo parlando con lui solo, ho fatto il volume della radio e lo sentivo tranquillamente. No, sei stato tu e cazzo mi ha rimbombato tutto e allora lì ho visto che era basso. Io ho dovuto sollevare tutto il volume per sentirlo e quando parlavi tu abbassarlo perché completamente senza radio. E la stessa cosa io con te, avanti Gianni, aspetta, no, vediamo un po' se adesso sollevo il bicchiere, ma se non stiamo durando però. Gianluca! Sì, avanti, dai, adesso ci sei. Ah, vabbè, stai uscendo? Adesso ci sei, tranquillo, dai. Prova, che mi ha allontanato. Sì, ma è stessa cosa. Sono a fischi, puoi spegnere la tua radio. Mi stavo ascoltando. Mi stavo ascoltando nell'altra radio. Non posso fare molto, devi farci la tua radio. Sì, adesso va bene. Va bene, dai. Se la abbassi non ti sento io, ti dirò così. Sono abituato a sentire la radio io, ma se non intendo cosa voce va. Va bene, riprendila e fai girare per Gianluca. Comunque ciao. E io ciao, non ti sono saltato. Ma che mi sei scendendo la radio, sentate così. No, stavo dicendo Gianluca, non mi ricordo cosa stavamo parlando. Dell'acqua. Ah, che prima si faccia dare le provviste, perché non abito nulla sotto il cuore, non ce l'hanno cisterna, quando mancava l'acqua la notte, solitamente l'acqua dovevano la notte, no, e la mattina presto. E quindi magari dovevi buttare l'acqua di notte e cose. Rubiva la vasca, ma la cazzo lasciava tutta la terra nel fondo. Ma di che cosa rimascola, di che cosa? Potevo fare la domanda, ma se quel ricatto come fa a prendere la mano con le MC60? Ce l'ho sopra il letto. Bravo, il mobiletto, il mio mobiletto, alle volte sotto, a scomparsa, non si vede. Io non ho facciato che avvicinarmelo e ce l'ho davanti. Ah, non vi braccio, non capivo com'è. perché esce un po' con l'altro, c'è cioè il cavo lungo del microfono normale. Va bene. Non capisco questa cosa dell'acqua, cioè non riesco a capire. Che cosa? Del vascone, così è, hai detto. Ma il vascone, la vascone a bagno ventiva. Ah, e poi rimaneva tutto il fondo. Allora. Ma giù di Bidiginzo, che si sa che c'è più tuvera, a Bidiginzo, c'è proprio un animale molto di tutto. Antonio, c'è un bel socio, che lavorava lì a Bidiginzo, proprio lo prosciugava, no? Lo chiamava e gli dava tutto il pesce che pescava, che rimaneva a casa, no? Per non farlo morire. Ce l'ha portato via dentro dei recipienti grandi che ci aveva, tipo da Murbani, e dopo lo metteva in un vascone di irrigazione che c'era in campagna, ma se c'è attaccato uscivano allucinanti, gli dava il pane duro da mangiare, uscivano certe carte, che non le pescava mai, un giorno vengo a lui, attaccato, c'era una carrucola vecchia, attaccato una lenza grossa con il pane con il formaggio. Ho fatto una pastetta, si è fatta una capra, guarda come si pesca, guarda come si pesca, buttala giù, che se no va bene, all'inizio, quando l'ho vista, bella quella carpa, questa Gianni, buttala giù, che se no mi dice ancora, mi torno in giro. Poi già mi ha raccontato Antonio, e un po' ne abbiamo visto quella cosa, anche quando abbiamo fatto la cuore al Bunari, con l'officina dell'età la stessa cosa, l'unica serpentona che ha fatto un anghita e dice per carità fanno anche schifo. E allora c'è lui e io mi prendo un po' di più e non è niente oggi ha messo tu lo sta declarando quello che ci sei stata, ma sei a letto? Perché che problema c'è? Dimmi il problema che c'è, non tu metti questi c, cosa c'è? Sì, non è ci 60 c. Dico, non sei più pratico usare il palmare? No, io cioè me lo posso avvicinare. E capite, me lo posso avvicinare, qui attaccato al letto lo posso mettere, perché c'è le ruote, lo porto avanti e non c'è nessun problema. I fili sono tutti lunghissimi. Ah, ho capito. No, magari per te, con il microfono diciamo col palmare, giustamente solamente quando magari in questa circostanza di adesso che sei così, no? Che dice magari che ti stai rilassando, io non so se c'è il palmare adesso, capito? Ma a me non mi dà nessun problema, eh. No, un braccio, avete qualche piegare, da quanto ce l'ho vicino, figurati, non mi dà nessun problema Gianluca. Il palmare lo uso, tutto quando ne posso fare a meno lo uso quello lì, magari se va a banda laterale, cosa, allora va bene. La banda laterale va bene anche il 1060, voglia. Io se per esempio no, se c'è per esempio come sono quelli che affrontano, che sono lì c'è natura, ce l'è presente. Io sono praticamente così, la rete ce l'ha appesa come in alto, non so se della sponda praticamente, come camionista. Capito. Al microfono vedere bene, dall'alto al basso, così è. Ma che? Allora, tu te ne scogiti. Ma che? E dopo ci ha messo la mensolina, no? Ho messo la mensolina dalla parte che mantiene dal lato della spalliera con la 45 gradi per farti capire, no? A 90 gradi questo qua, scusa. E ci ho messo la mensolina e lì c'è l'alimentatorino. Gage in capo. No, è già tutto tranquillo. C'è due belle scarpe, dopo c'è anche tutti i urini. A voglia, no, già c'è da un po' di tempo già. Le belle scarpe, quelle con la plastica che lui ricopre, no? Che sono per avvenimento per lui. E dopo gli ho messo anche dei tacchetti con le viti qua da una parte, come nei ripiani dei mobili. E ho capito, quelle rosse sono, quelle placche rosse, quelle che si attaccano alla cosa della messa, alla staffa. Aggiungo un piso, avanti qua. Sono abbassato? Ma lei non l'ha abbassato tu? No. Allora si gira, si allontana, ma come lo fa? Allora, non so se per lui è la stessa distanza, guarda per lei. Andate sul razzo, come non lo so però. Ma sta lontano, ti gira la faccia. E qualcosa fa sicuramente, lui manco se ne accorge, ma con questi microfoni se non ci parli davanti, poi io sto qua parlando davanti, ma io sono seduto nella poltroncina qua da pappa, io non vado a quei cani, vado a quei cani, se però mi giro così te, che guardo il muro, è chiaro che la modulazione cambia. Adesso l'ho girato verso di me, perché l'ho girato verso là, forse quello lì era girato dall'altra parte. Guarda per lei adesso. Ma io noto sempre qualcosa che non mi funziona. Toccate quando ti ho detto cosa, sei partito in guarda, mi rimendi sotto là e torna là su. Ma non è come si apposta qua? Sì. Una resistenza. Quindi vabbè, ma girato un po' il male il fatto di questo relè, perché io relè non ne ho messo. Se facciamo uno più uno per l'aria l'hai comprata tu, quindi quella era a Gigi, Gigi era a me, io non ho fatto altro che sollevarmi il Mickey Gay da dentro dallo driver, che era tutto a zero, l'ho messo tutto al massimo, basta, non ho fatto altro. Quindi non capisco questo relè, dove cazzo è uscito, e chi l'ha messo così? Ma sarà un mistero, comunque, va bene lo stesso. Io di chi si guardate non l'ho mai fatto, anche perché non so manco a cosa serve quel relè, quindi figurati. Avanti Gianlu. E dopo non era lavoro fatto in laboratorio, quello lì, è lavoro fatto alla grezzumine, perché c'aveva un filo di quelli di corrente che secondo me deve bonifiere il genere, ma... Cosa c'è più lì nel fatto del esterno dell'LC, a cosa serve? Non serve a niente. A cosa serve? C'era già lì quando tu, per esempio, 440 c'era, quando io faccio così per guardare l'LC, no? Per vedere se sono dentro l'LC, ecco, fa tic, ecco, io li metto a posto. Per vedere ti segnala praticamente se sei dentro l'LC, nella striscia rossa. Quello che non esce, non ho capito manco che cos'è, mi ha detto Fabrizio, non so manco che cosa sia. Manco io lo so. Comunque questo qui è stato avanzato anche di cosa di LC, no? E quando l'ha aperto non l'hai visto qua che ce l'avesse a fare. Io ho tolto il pezzo di sopra, quando c'è lo driver che c'è scritto Mick, lì c'è uno driver, mi sembra che l'avevo già fatto a te quando l'hai portato per memorizzare, mi pare, uno me l'ha portato a memorizzare, ma detto me lo alzi il Mickey Gay, l'ho aperto, ho entrato il cacciavitino induttivo, l'ho portato lo driver praticamente al massimo, quello lì è Mick, l'ho detto qui, io non ci metto le mani dentro, quindi non me ne sono manco accorto di questo lì. I due coraci che erano Mario per la prima, non lo so, però è stato grezzo chi l'ha messo, perché Fabrizio mi ha portato il filo da vedere, era di quei fili elettrici, tra di quelli grossi, per capirci, tipo quello che usiamo per un po' più filo di quello che usiamo per la cosa elettrica, per il filo elettrico che usiamo per l'apparato. Per casa? Mancato di corrente. Esatto, quindi che tu trovi da lampadari, dove attacchi i lampadari, quindi. Ci teniamo cosa rosa, ragazzi. Ma quello che rimane è quello che ho detto a Fabrizio, è che io quella radio l'ho comprata praticamente da te, perché sei tu che l'hai comprata e data a Gigi Vulcano. Gigi Vulcano se l'ha tenuta due giorni, anche troppo. Io sono in Romagna, sono andato, ho fatto il cambio, gli ho dato Romagna più 100 euro, perché mi ha dato anche l'MC60, e mi sono portato a casa la radio. Quando io l'ho attaccata, siccome ne avevo un altro, e avevo il C80, che poi ho dato a Franco California, e volevo, l'ho provato, prima ho messo le cuffie col C80, discussione con l'ambulatore non mi piaceva, troppo bassa. Allora ho aperto il coperchio di sopra, no? Come ho fatto a te giallo? Ho aperto il coperchio di sopra, ho controllato il trimerino giallo che c'è sulla vetra in alto e ho visto che era tutto a zero. Ho preso il cacciavitino induttivo e l'ho portato al massimo. Ho messo il coperchio, a posto. Da giorno io quella non l'ho più toccata, non mi ha fatto mai nessun difetto. Sia quando da qua non è andata a casa di Giampaolo, ma non credo che Giampaolo si sia messo a mettere un relitto che non sa manco l'ho beccato, devo mettere le mani, non sa manco cosa serve. Quindi la domanda è questa, è già arrivata con questo relitto? O qualcuno dopo di me ci ha messo, o dopo di te praticamente, dopo di tu hai fatta, ci ha messo la mano dentro? Questo è quello che io non riesco a capire. Da cosa l'ha messo a fare questo relitto? Ma tu l'hai comprata da negozio? Ma io l'ho comprata da negozio per vendere questa radio qua che fa le fiere, non mi ritirata una fiera. E mi hanno chiamato, mi hanno detto guarda, c'è quella radio che mi ha chiesto, è la nuova roba, eccetera, eccetera. Adesso io la porto in laboratorio, la controlliamo, prima di spedirtela se ti interessa. E poi ce la facciamo a voi, l'hanno tutta controllata, poi quando mi è arrivata la vista qua era perfetta, non mi ha mai dato problemi né a me, né a Gigi, né a lui. E poi di colpo ha dato problemi questa cosa, non un luogo, c'era una cosa che c'era prima, comunque con lui sicuramente era per un buco potenziale, non era il gioco, cosa era di buca fa. Qualche magari per darmi più corrente, hanno aumentato l'assorbimento, lui danno i giorni. Sì, ma per la mia esperienza vissuta in queste radio, cioè quelle lì non serve a niente, perché la misurazione dell'LC in quelle radio è in automatico, c'è un tasto dove c'è scritto LC. Ok, tu pigi quello e il segnalatore ti indica la freccia rossa per vedere se tu sei dentro o fuori la LC. Questo lì, a cosa l'hanno messo a fare? Non ha nessun significato. Non capisco quello che infatti la donna era fatta fabbricata, ma è una modifica che si, ha detto non serve a niente, non si può fare, cioè a cosa lo metti a fare? Io capisco se metti un relè di commutazione sulle bande, allora magari lo modifichi perché il relè che c'è non recita bene la banda, non cambia banda, quindi le metti un relè supplementare per aiutarlo. Ma nella sezione relè, questo relè già lui era proprio nel tasto dove c'è il segnalatore LC, la cosa c'è via non l'ho compreso. Guarda qua, io la verità non gli comprendo un accidente, è meglio che non comprenda, se no magari mi ha detto che già fa che c'è avventura, non vuole giocare che cosa. No, mi posso adattare a fare un microfono lì, sostituire una capsula, una cosa del genere, ma niente di che, guarda, no, cosettine semplici, e quando c'è anche ben attento. Io di questa cosa qua, ti lamenti che tu vero una cosa di lume e puro, a proposito. Esatto, vabbè, anche nel tuo, certo. Ah, ecco, anche nel tuo, ma tu hai detto lì cosa che tu mi vado in hobby. Però tu non ero nell'LC, e tu ero in mezzo tra il trimmer dell'FM e quello della M, avevi molto visto che lì. Infatti te l'ho staccato, veramente di tutto lì che un conservatore non serve a niente. C'era un filo saldato, l'avevamo staccato, anzi tagliato la volta direttamente da sotto, dalla piastra. Ecco, anche tu ci avevi questa cosa così, cioè non capisco perché mettono queste cose, a cosa servono, io ripeto, questa radio non sono un mago, però ci si mette le mani in quelle poche cose che mi hanno insegnato, soprattutto Carlo di Chiaramonti, ma dico, sul 430 io mi sono cambiato la scheda intera dell'oscillatore della M, e non è facile, perché ho dovuto aprire tutta la radio, ma io ci sto lavorando, è perfetta, non ci ho messo nessuna cosa aggiuntiva, ho staccato una e ho messo l'altra, e non è gli strumenti, non ho niente, quindi so che sono già tarate le schede, l'oscillatore oscilla per quella linea lì, non va oltre l'alimentazione è diretta perché c'è praticamente due diodi, due transistor e due condensatori, ma diverse, quindi bisogna sapere se qualcuno di noi l'ha fatto, però se la radio è già arrivata così, comunque pazienza, a tutti di me le prendi. Non c'è sempre le funzioni da buco, di noi sono una funzione. Allora, a me mi pare di me che era un supplemento operazionale, Claudio, quello che avevo messo a me, che aveva una ventola montata sulla griglia, e aveva appoggiato una ventola per aumentare il raffreddamento, e sicuramente avevo messo questo relè che faceva accendere questa ventola quando entrava, quando si scaldava. A me. Sì, ma che è sbagliato, perché questo è il radio. Il 440 vabbè c'ha il dissipatore esterno, il 430 c'ha la ventola esterna verticale, il 140 c'ha la ventola interna orizzontale e in una sedia orizzontale tipo una ruota di mulino, no? L'orizzontale appoggiata a due sedie con delle guide, un motorino che la fa girare e due sedie addirittura con due cuscinetti ma microscopici e gli assi. Quindi cosa succede? Cioè alla fine poi del motorino ci sono due fili che alimentano il motorino, un terzo filo che va al termostato. Se quel termostato è rotto o bruciato e tu non glielo cambi, all'interno la radio rimane sempre calda perché non viene ventilato la ventola sopra il finale proprio. E sopra il finale, te l'ho fatto anche vedere, mi pare che già non fosse già nella mai vista aperta, te l'ho fatto vedere. Quindi automaticamente cosa succede? Se tu metti una ventola sopra, cosa cazzo può raffreddare il coperchio? Non ha di prese d'aria al 140, non ha le prese d'aria, che prese d'aria c'ha? Con due spacchettini al cazzo, non ha le prese d'aria. L'aria deve essere ventilata, perché hanno messo la ventola verticale, cioè in orizzontale, rispetto a 440 e 430 che c'erano in orizzontale? Il 440 in più c'è il dissipatore, la ventola. Il 430 c'è la ventola verticale che aspira da dentro, proprio dall'angolo dove è butta fuori, dove c'è il finale. Il 140 è il finale, è all'interno. Praticamente c'è il coperchio di sopra, un altro coperchio che copre i finali e sotto c'è la ventola. Quindi questa ventola orizzontale quando gira raffredda automaticamente il finale. Se tu ne muovi una ventola esterna, cosa cazzo sei freddendi? Un coperchio sei freddendi? A cosa vuoi buttare a fare? Tanto vale cambiare il termostato o aumentare addirittura il termostato che intervenga prima. Prendo l'idea. Sicuramente che cosa? L'hanno messa diciamo fusionando quella lì, questa qui gliel'hanno aggiunta. No, è una cosa che è veramente un uomo giorno da schifo, capito? Fare una cosa genere da schifo, perché io capisco su un amplificatore lineare, anch'io su quello grosso, sul 911 della Kevod, ho due ventole, ce n'era una, ne hanno applicato un'altra della stessa dimensione, con l'interruttore praticamente supplementare messo dietro, bucato nell'ammirino, un interruttorino piccolino, dove quando vedo che lineare scalda molto, perché è un 5 valvole e scalda molto, allora siccome uno è a termostato e quindi parte quando le valvole sono molto calde parte la ventola grande, io per aiutare quella grande ne ho messo un'altra, ma l'ho fatta io la modifica, ma la sono fatta io, non c'è bisogno di lei. Assolutamente, perché ho preso l'alimentazione diretta dalla stessa ventola, dallo stesso termostato, però l'ho messa all'interruttore e quindi raffredda quando lo dico io. Ma lì no, lì sopra, all'interno però è già lui, all'interno dell'amplificatore, a fianco alle valvole, soprattutto quella pilota e quella che incita a scaldare di più, la rodica arriva tutta lì. Ma cazzo, non avrai di rimbore, la ventola si può aumentare sopra la falosa, non serve a nulla, capito, non serve assolutamente a niente, questo è il mio parere, serve solo a fare cagate, boh, avanti già. Ma la ventola deve funzionare quella di dentro, quella si funziona, perché poco fa c'è attaccato. Anche lì l'avevo visto perché l'ha bruciata e l'ha cambiata. Vedi, mi sta funzionando anche adesso. La senti? Anche la mia funziona. Sì Gianni, ma infatti ho detto un difetto del genere, è più che altro può essere solo un falso contatto, qualcosa del genere all'interno della radio. Infatti ti dicevo anche, metti la testa sopra la radio e vedi se aumenta la interruzione. Perché quei difetti lì, queste radio lo fanno quando la radio va in protezione, a te ti andava in protezione, perché ti andava in protezione? Perché la radio te la faceva a caldo, se tu ti ricordi, quando la accendevi, modulavi un po' poi come scaldava dalla protezione. Perché? Perché si dilatava la pista dove c'era il falso contatto, quindi dove non c'era il passaggio di stagno, si allargava e non ti dava il consenso della modulazione. In più la ventola non entrava in funzione, è chiaro, cazzo che la radio ti dice, oh vabbè, o mi metto a posto, io mi blocco perché altrimenti mi brucio, e quindi è così. Sono cose molto delicate, ma ti dici anche, guarda che è una gattata, non ti disperare, perché sono cose che in questa radio possono succedere. Io stavo diventando pazzo, non riuscivo a far andare il 430 in banda laterale, ho toccato niente, mi sono sistemato là e mi sono funzionato la banda laterale, guardando mi si è staccato lo spinotto proprio dalla commutazione della banda laterale, purtroppo era lento, l'ho stretto appena appena con la pinzetta, sempre quella induttiva di plastica, l'ho rimesso dentro e quelli che ha funzionato. Radio Wichita già, bisogna darle dell'idea a queste radio, accarezzarle piano piano, vedi che funzionano sempre. Grazie, ti ricordo la carezza, così ti spargo la radio, così, ma mi butto energia anche, mi dice, mi sa, ma non ha spargolato anche in sala che ci vede a polvere. C'è una serata, dice, ti spunto. Vabbè, ecco, è un compito nostro, anche qua già hai visto cosa c'è, non tocca niente nessuno. Quando andiamo per terra, passano l'aspirapolvere, hai visto che non ce ne sono per terra, perché altrimenti qua si aspirano tutto, però le radio me le pulisco io. Non c'è problema, da poco io ho smontato tutto a terra, ho passato il scoppino dietro, le radio, tra polvere, tutta la rana, ho aspirato tutto, sono cose che devi fare tu certo. Che te l'ho fatto a moglie, assolutamente non voglio che c'entri nessuno qua a toccare, sono mille fili, mi staccano un filo e fatto danno. Comunque, il problema è sempre quello. È sempre quello. Comunque Gesù, io sto tornando con l'850 e tutta la sera che vado con l'850, volevo far andare un pochino. E mi hanno detto che la modulazione è abbastanza buona, simile sempre sia al 440 che il 430 spinge molto di più, c'è una modulazione molto più spinta, però anche questa non è male, cosa ne dici? L'850? L'850 sì. Come ce lo sta facendo andare? Con l'MC60, sempre con l'MC60 perché l'85 ha due vie, quindi lo uso con le altre due radio della VHF, l'MC80 è staccato, l'MC60, uno ce l'ho sul 440, uno c'è sul 430 e uno sull'850. Ma non ho avuto modificare per andare in aereo, oppure ce l'ha? La modulazione come se tu, alle 440, 430, visto che il mic è sempre lo stesso, però va bene. No, questo è completo di tutti, c'è filtri anche in AM, tutto. Trasmissione e ricezione, 50 è molto, molto completa, un bellissima radio. AM ce l'ha, c'è AM, FM, c'è tutto come tutto laterale, solo che digitale a me non piace il digitale, però insomma, avevamo trovato una via di mezzo per la trasmissione, l'unica cosa che mi ha fatto Massimiliano è aprirlo per i picchi di modulazione in positivo, perché a 50 watt andava in negativo. Siccome un digitale io non mi sono fidato, l'ho portato a lui e mi ha dato tutti i picchi positivi che si possono dare, perché c'è una scheda dove al computer devi cercare di tararla al massimo della modulazione, e con 50 watt me ne va come l'altro 70-80 modulati, mentre a 70 watt arriva a 100 modulati e basta in AM, mentre invece in SSB fa da 100 importante sino a 150 modulati. Io mi va. Io mi va così. Così mi va. Va bene, no, ma guarda, io il pulsante touch con le regoli, capito? Quindi regolato a 2,5, quasi 3, e il microgame a 4 con la modulazione che abbiamo tirato fuori. Comunque l'ho messo in vita perché mi sono preso il 9,40, quindi sono valette su eBay a 600 euro, compra subito, è praticamente la mia, l'ho messo ieri. Per lunedì mi spedisco il 9,40, ho provato già l'animatore di Cagliari di Quadio Sant'Elena, che l'ho usato pochissime volte, si è preso il 756 Pro 3 della Icom, e quello l'ha messo da parte. Parlando in HF, è capitato appunto, l'ho detto, avrei voluto trovare un bel 9,40 perché mi piace moltissimo, analogico, con le bande laterali eccetera, e mi ha detto guarda, io ce l'ho lo strumento. 600 euro, quindi ho messo in vendita questo 600 euro, quello là lo ritiro lo stesso, però voglio recuperare le 600 euro perché mi servono, che c'è un sacco di cose da fare a casa, quindi non voglio speculare soldi. L'ho messo in vendita, se sentite qualcuno, 600 euro compra subito, scatola, manuali, cavi, nuovo come da foto, garantito a Bari Claudio Sparviero. Questa è la radio. E questa è veramente è una bella radio. Per chi vuole fare attività amatoriale, questa per iniziare va più che bene. No, allora già mi piace a me quella radio. L'avevo vista da Giampaolo, tranquillo. La luce 9,40 è quello bello che c'è anche quel display in vero, è così, e sono affatto, escono i numeri. Chi c'è il... L'andato di spettro piccolo che stringe e allarga la banda, io l'ho avuto, ho avuto tutta la linea completa a 9,40. Ma ho voluto fare solo 7,4 digitale, l'8,50, lo volevo già far fuori da prima, versarlo per prendere 7,4. Poi ho detto, ma ce lo volevo, ci ho detto, ma metto anche 7,4, mettendo anche 8,50. Adesso siccome lo spazio è molto ristretto, perché mettendo il 9,40 al posto dell'8,50, ho fatto via non una, ho fatto via 2, a che figlia mezzo, è un bel grande, e il doppio dell'8,50, figurati tu, sia come profondità, come altezza, come larghezza, è un barrasone, e quindi non c'è spazio, ma vicino allo spazio voglio recuperarmi i soldi, non è che posso buttare via soldi così per il radio. Preso una e vendo l'altra, tanto a me non è che mi serva più di tanto. Questa la uso solo in 40 metri, figurati se io tutte separate le radio già non perciò. E poi è un affare 600 euro con il microfono normale, le metto l'MC60, l'80, l'85, già ne ho un microfono, non è un problema. Se sentite qualcuno, no, poi già lo vedono, si vede là. Dove ho fatto la fotografia si vede che la mia stanza, non ce ne sono altre così. Anche perché si vedono le altre radio, quindi. Avanti già. Già c'era, ma pensavo che che si valesse molto di più, perché dove l'avevo vista io che anche 1000 ne volevano, anche 1000 euro. Sì, ma io ho detto la sto prendo perché non fare, altrimenti non l'avrei presa. Rientro praticamente nella vendita e nell'acquisto, perché vendo per 600 euro, acquisto per 600 euro. Se no anch'io ultimamente ne ho vista una sul computer, ne volevano 850 euro, un'altra voleva 900, quindi capito. Per quello io gli ho detto a questo collega governatore Giuseppe, ho detto mandamela, ma se voi vi può vendere anche quello, no? Ho detto no, non ti manda niente, questo me lo vendo a parte, comunque manda, lo vendi. E poi già quando lo vendo me ne recupero i soldi. Un paio di mesi posso tranquillamente anticipare, perché mi devono ricordare, perché arriva il materiale e tocca la manca domanda di no. Vabbè, avanti già. Non va, e l'ho usata per anni io, in AM, non è molto potente, in AM è una radio che non dà più di una quarantina di watt modulati, ma in valore naturale non ha 200, bro. Mi sembra che sia anche autoalimentato, vero? Sì, 220 allora. Cazzo, usa nulla, sono lì, Sabaida, sono lì su. Ma io sono sempre stato ammazioso, ma avevo già sempre le voci, sto trovandolo uno buono, non spendere tanto, lo sai dove piacerebbe la prova, di 751 America, alimentato però. Diciamo, no, guarda, io ero in 20 metri, cioè 40 metri, e proprio parlavo di queste vecchie radio, 940, 430, l'ho nominato, e soprattutto la 751 America, sono tutti alla ricerca di queste radio, perché stanno tornando alla moda, non so perché, non so se per la modulazione, se per che cosa, ma io ho 780, il DS 780 era che avevo il B-Banda, VUHF grande, più grande del 440, molto più grande, tipo un po' più grande del 7004, che era 220, ma non mi va nulla, niente. Non la ricezione, la trasmissione è famosa, c'è l'MC85 perché ci sono due vie, una via la uso con quella, una via la uso con la, a volte con 430, a volte anche con l'850, dipende da dove mi serve. Ma sono radio eccezionali, e anche il 780 è della, più o meno nato nell'anno che è nato il 940, questa è la seconda serie, vabbè. Addirittura questo di Giuseppe, il 940, la terza serie, quindi l'ultimo che hanno fatto, poi non l'hanno fatto più. E lui è nuovo, nuovo, nuovo. Mi ha mandato un MMS sul telefonino e cazzo, è nuovo di pacca. Nuovo di pacca. No, già sono radio, il 940 è uscito, mi pare, nel... sarà uscito nel... 98, 95, 97, una cosa del genere, e non è nuova, però sono bellissime radio. Vabbè, adesso che io faccio una roba, se anche non sono robe lunghissime, l'interesse a te che va a bene su quello che vado a fare. Tantemente sono meglio queste radio, diciamo, che non sono tecnologiche piuttosto che altre. Di tecnologica già ne ha, di tecnologia già ne hanno ancora, è analogico, a me è quello che mi interessa, analogico a me piace molto di più, io digitale non posso vedere, non mi interessa, è una cosa che non ho mai potuto vedere, digitale non, perché non mi interessa proprio, già non sono amante manco il computer fuori dalla radio e ci vivo 24 ore su 24. Ce l'aveva, no, Telebuda mi aveva il 9.50 mi pare, ma prima 9.50 aveva il 9.40, non so, c'era Marco, l'altro, insomma, qualcuno ce l'aveva, adesso non mi ricordo, io l'ho avuto lo stesso, ti immagini che l'ho avuto che era W0, quindi non potevo entrare in HF, e avevo il 9.40, trasmettevo solo in VHF e in HF, e già lui. Allora... Ma l'ho voluto, diciamo. c'è un addio alle 9.22 a Carlo, quello di Chiaramonti. E quanto quello lì, quando si aggira? Me l'ho venduto io. Quello l'ho venduto io, l'ho venduto 2.500 euro. Ripeto, non ero sentire la potevano avere 300 watt e usare sia le HF che le VLU. Quindi io quando usavo 940 lo usavo praticamente come secondo operatore, quindi c'era sempre l'allenatore IS0 a fianco a me, di cui Marco mi ha fatto a volte la spalla e quindi l'ho usato, ce l'aveva anche lui allora, a quei tempi. Poi quando sono diventato IS0 allora ho iniziato ad usare gli HF, ma prima non si potevano usare. Ecco. Avanti! Ciao a tutti, sono entrato a cena, ho acceso un attimino, stavo facendo una carrellata. Ciao Claudio, ciao a tutti, come sta andando già? Ma bene, a parte il fatto che si è abbassata la modulazione, però non si sa se sia dovuto al fatto che non si è spostata o no. C'è la modulazione? Si è abbassata di volume, diciamo, e praticamente si fa toccare nulla. Lì non ci ho messo male. Ascolta, qual è il microfono dietro, se per caso è in o in out? No, questa modulazione è da in, ma può essere da out. È 50 ohm, giusto? È giusto, già è giusto, vai tranquillo, già si sente. Poi già quando il PC ti gioca 50. No, era proprio così e non cambia assolutamente niente. Cosa cambia? Questo microfono prende l'aria da tutte le parti, non è fatto come un microfono di quello del baracchino, capito? Quegli spazi che tu vedi, quello è tutto aperto, la capsula, quindi puoi parlare anche così di fianco, tu, e non le fa assolutamente niente. Che cosa le fa? Era un po' in ricezione, non lo so, sto uscendo bene. Forse devo abbassare un pochettino. No, sento che sono veramente bene. Devi stare attento a modulare anche la voce in quella radio, perché sto facendo veramente bene. Poco fa stavo ascoltando e invece adesso sto facendo bene. Ma dovrebbe anche scaldare. Io vabbè, non so, vediamo come va. Adesso bene perché non mi sta dando problemi, ogni tanto si attacca la ventola e me la senti. Era un problemino, aveva tratto una resistenza, c'era un'interruzione e quindi non dava il consenso a cosa, c'è lì un regolatore dove c'è un integratino e non gli arrivava la tensione, perché lì deve uscire una tensione, sono due tensioni, da quel te l'ho fatto vedere allo schema, sono due tensioni, una non andava a massa con quella roba, vabbè, comunque, e quindi non usciva quella ripartita. La radio è buona, è ottima dentro, è nuova, niente di particolare. Poi l'ho provato in 40 metri, mi hanno detto degli ottimi rapporti, soprattutto come modulazione, e soprattutto ti ho fatto vedere quel 36.000, l'hanno fatto a frequentino, quindi è perfettamente in isonda. L'ho provato anche in 40, mi hanno detto no, perfetto, ti ho chiesto un po' di controlli ed è a posto, dai, sei sicuro che sei perfettamente centrato anche in banda. Non ho dubbi. Perché hai ascoltato la banda? No, ho fatto non la conferma di tutte le tarature per metterla perfetta, dopo un po' era abbastanza a posto, però ho fatto quelle cose che gli fai per farla tornare come deve tornare, ma infatti è perfetta quella proprio, guarda, se ti sposti magari più che con quelli che sono, se usi il 7004 probabilmente, se la provi come abbiamo fatto l'altro giorno, se ti ricordi, è perfettamente spaccata, l'ho provata anche in 21, in 40 sono andato, ho fatto un paio di passaggi 2-3 volte ed era perfettamente, dopo ho fatto l'allineamento, era perfetta, e quello è importante, poi te ne renderai conto quando ascolti che in genere hai sempre spaccato il numeretto già. Fuori, tanto è collegato. veramente in 10 metri, c'era una propagazione in 15, ho fatto, in 10 ho fatto l'Argentina, poi ho fatto il Brasile, poi ho fatto lo Spadoni, questo qui è l'isola delle Canarie, poi Martinez, e poi c'è un collega Martinez, Uruguay, e poi sono andato in 15 questo, e poi in 15 ovviamente il Brasile, poi nuovamente Cuba ho fatto oggi, e poi l'Indonesia, un po' di collegamenti nel giro di un'oretta, veloci, uno dietro l'altro, c'era un po' di propagazione. Sì, quelli ce li ho, guardate le isolette molto interessanti che ci sono lì sotto, ce ne ho qualcuno lì, di quelle isolette fatte, soprattutto in 15 e in 20. 10 un po' di meno perché andavo in verticale, adesso con la direttiva vediamo se riesco a pizzicare qualche country che non ho, beh quella c'è, Brasile, Argentina, Cuba, Indonesia ce l'ho in 20 metri, poi qualche altra isola un po' più interessante, un po' più lontana, già, e oggi ho visto c'era un bel po' di preparazione. Vabbè, tu giri l'antenna, quindi giustamente riesci a captare quei segnali più bassi. Io polarizzazione orizzontale, col dipolo su 4 lati, riesco a sentire quello che sento, quello che arriva. Ma adesso già mettiamo tutto a posto. Va bene, vai signori, io vi saluto, non me ne vado a nanna, sono le 11:30. Ciao Fabrizio, ciao Gianni e ciao a tutti quelli che sono ascolto. A domani, vai già. Ciao Fabio, buonanotte. Ci sentiamo domani, vai avanti Fabrizio. Sì, anche un altro paio di passaggi. Devo fare qualche altro collegamentino, che sono rientrato poco fa, prendo i bambini, e poi invece ho girato giù questo e ci metto a fare due chiacchiere. No, sta facendo bene, anche bella forte la modulazione, non è vero niente che basta, bella forte. Adesso stavo ascoltando meglio. E niente. No, e poi stavo facendo, l'altro giorno ho fatto anche delle cose carine. Dove cavolo era? Comunque poi di cose. No, ma poi viene bene, una volta che gli gira l'antenna, cacchio, gli attacco questo kilowattino sotto, tac. E ti ascoltano, per forza ti devono ascoltare. Perché quando li picchiano, poi attacchi e ti rispondono alla prima. Se non c'è il gas sotto, che quando chiamano, soprattutto finché tu senti tra il solito lì, ti butti tu a fare di ti chiamano, ti rispondono, oppure senti girando il workflow, senti quello, lo becchi perché, ma se c'è qualche lì sul coso, come che non si chiama, sul cluster, certo se, che quindi lo vedono tutto il mondo, se non c'è il VAT non vai, Eccoci, no, io sono in 10 metri ancora, devo, adesso ho preso questo amplificatore, poi vediamo verso maggio-giugno se riesco a portarmi a casa le valvole anch'io dell'altro amplificatore, lo attacco, lo faccio cammellare, ma prima mi devo sistemare le antenne. Sono in 10 metri, ho un amplificatore, intorno ai 600-700 watt, le altre bande, tutto a watt diretti. Va bene, dai Fabri, buon collegamento, allora con tutto, ci risentiamo alle prossime, vai già. Ciao, buonanotte qua. Fabri, che poi vorrei vedere quel mostro girando. Ma secondo me già fa una prova, scusa, perché ogni tanto dobbiamo andare, sta vicino, prova a abbassare un po' il micchiere, fai il favore a vedere, fai una prova. Ma è abbassato, come è tutto un po' di... Ma ancora di più, fai la prova, anche tu, perché tu non sai che c'è una vocina. Come adesso? Prova, fai un passaggino. Ma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, vabbè, non sta cambiando molto, sembra uguale la verità, a me mi sembra uguale, non so se Claudio ha l'altro orecchio migliore, ma a me sembra che non è che è cambiato. Guarda adesso. Sembra sempre amplificata come prima. Ma già va bene, dai. Che però non va bene, poi adesso che la bacio te la fa poco. A me va bene così, la sento, mi dà l'impressione che ti avvicini troppo al microfono ogni tanto, capito? E per quello non la tenere a manettone, tanto poi alla fine la pressione è sempre quella quando metto il processore. Non mi avvicino anche perché sono con il cazzo, sto allungando il braccio per parlare, che sono con il cazzo, non è che sia, capito, che sia la guarda la palizza. No, va benissimo così, non a toccare la cosa, perché rischi di strappare se no se amplifichi troppo. Cioè, ma non è che è più amplificata, l'amplificazione rimane uguale come spinta, però ogni tanto tende a strappare se è troppa, perché magari ti giri, ti avvicini alla voce, e quindi no, prova a lasciarla così, tanto no, io mi dà l'impressione che non abbia nemmeno abbassato di modulazione, è sempre spinta, ma mi sembra più chiara. Io sto anche parlando piano, mi fa bene, non è che stia parlando o gridando o roba del genere. Cioè, mi piace molto di più, mi sembra che si stia spingendo di più, se non rischi, purtroppo. È così come arrivo al 440, bastava un pelino, un tocchino, tutto, sembrava che ci usciva a casino, capito? A casino. Ui, a mangiare fuori, non si può più andare a mangiare fuori, ti crepa ogni volta, cazzo, minchia, sta diventando, minchia, che è tutto assurdo, cazzo, questi zoppi ti danno. Sì, invece di andare incontro perché c'è un po' di crisi e cercare di far pagare qualcosa in meno, si mettono a far pagare di più. Questa crisi che c'è, non vogliono approfittare da quello che ci dà, perché ci fanno un tocchi, allora. E non siamo andati di bello tra la Sassa. No, io un punto non voglio mangiare bene, me ne vado a Saccargia che si mangia bene. Ottimo, anch'io sono andato lì, si mangia un bel bene. Siamo andati a bere regalato a miei suoci, che hanno compiuto 50 anni di matrimonio, e gli abbiamo regalato il pranzo, e l'abbiamo fatto proprio lì. Allora veramente cucina veramente bene, c'è quella fontanella eccetera eccetera, c'è stata anche la fotografia dentro. Io gli ho fatto il matrimonio 10 anni fa e poi ci vado spesso, adesso di meno perché con i bambini, però prima ci andavo molto spesso, capito, a mangiare, ed ero un mese e mezzo non ci andavo, forse anche due, allora ho detto sì che ero libero, che andiamo a mangiarci una cosa lì, e si mangia sempre bene, dai, poi porti in abbondanti. Si mangia bene, già il posto è molto bello, accogliente, caldo, è un bel posto, dai. Sì, sì, fanno degli soldi qui, sempre pieno, Fabio. Non ci sanno fare, non so di dove siano, chi siano i proprietari, però è un ristorante veramente, non ti fanno aspettare molto, tra una pietanza e l'altra, la verità, io non ho aspettato tantissimo. Sì, no, li conosco bene, quelli sono di cloaca, grandi lavoratori, dai, grandi lavoratori, gentili. Vabbè, ci lavora solo la mamma e la figlia perché il padre l'ha avuto, sta male, non credo nemmeno che ci passi più. E quindi, già sta, un bel locale, dai. Comunque. Di sabato sono andato, ho trovato un posto senza problemi, prima dovevi prenotare, ormai trovi il posto da tutte le parti, per carità. Male in cuore è così, perché diciamo che sino a prima ci andava più spesso a mangiare fuori, adesso ci va proprio nelle occasioni oppure molto saltuariamente. Perché io prima per via andavo anche da Massimiliano Ciria, si mangia molto bene anche a Coso con San Gavino, a Portale, sa che sei un po' caro, però c'è un servizio dolce veramente, ti servono molto gentili camerieri, molto alla mano, si fermano per dire quello che vogliono il bambino, si mettono a scherzare con il bambino, no, sono cose che ti attivano il sorriso, sempre presenti, sempre. E niente, si parla qualcosa in più, però se si vive bene si mangia bene, soprattutto perché questa zuppetta di cose io non la dimenticherò mai, la zuppetta di frutti di mare, ma è una cosa così meravigliosa, guarda, buonissima. Già lo so. Noi sono un po' cranchi, io vado un po' meno, i bambini, però prima andavo spesso da una parte all'altra, adesso molto meno, prima da tempi cosa andavo dalle 2 alle 3 volte a mangiare fuori, anche veloce, spesso la tana ci va al negozio mia moglie, via, andavamo lì 3/4 d'ora, mangiavamo una cosa veloce, un piatto di qualcosa e ci rientravamo, perché è abbordabile tutto, però andavo spessissimo, dai, la media di 2-3 volte, quando andava male era 2 volte. Tra bambini e cose, una cosa e l'altra, boh, sarà anche che c'è crisi, ma sta andando veramente poco. Ma cara, prendo la parotta. Il vero portatore si spende bene, si mangia, si spende poco e si mangia bene, certo non è che vai a mangiare bene, però fai un piatto composto, un piatto di pasta, una pizza veloce, c'è roba veloce e via. E infatti lì molte volte quando abbiamo gli chiuso del negozio ci si andava, cioè ora facciamo, ma io entravi lì, io mi mangiavo un piatto di pasta, oppure un piatto composto, oppure una pizza veloce, 3/4 d'ora avevi ordinato, mangiato, pagato, arrivavi alle 8:10, alle 9:15 te stavi già andando, capito? Prendevi una ficeria ed era tutto fatto. Senza lavare piatti, senza fare casino a casa, eccetera, eccetera, e beh, così, come? Solo che se stai ogni sera mangiando così, dici la stupidità. Ah, ma lì si spendeva, guarda, o andavi con amici, allora da oggi tutto mangiavi, o andavi da altre parti, poi molte volte uscendo, capiravamo, tu mangiavi, che ne so, ma spendevi poco, mangiavi una pizza, un piatto di pasta veloce, magari il bambino si mangiava un'altra cosa veloce, una bottiglia d'acqua, una bottiglia di birra, insomma, cioè, coperto non è pagabile, spendevi 18, 22, 23 euro, capito, via, certo, avrei fatto a cena e non avevo fatto niente, ci andavo spesso, capito, poi magari arrivo il sabato, allora magari mangiavi di priorità qualche altra parte, un po', oppure anche lì, ma diversamente, capito, quindi è lì ancora è abbordabile, capito, è roba, niente di particolare, però mangiucchi, diciamo che non è che va a mangiare cose, però mangiucchi e via, siamo a posto. Ma come una roba semplice, però io mi avevano detto che era un locale di scambisti, così, che di notte andavano gli scambisti, che si davano gli appuntamenti di... Ma dove? Dentro il locale? Allora, così maledetto, ma se a voci di popolo ero sempre gli avessi il vero, magari è successo una volta, andate e subito l'ha detto così, ma io ci sono andato 2 o 3 volte lì. Sì, a mangiare la pizza e cose qua. Ma ho mangiato bene, dico la verità. Anche lì sono andato. E prima su poco girava, mamma mia. Prima era una cosa allucinante. Quando non c'eravamo i figli, noi facevamo vita la fidanzata, dico la verità. I primi 3 anni non avevo avuto figli perché ci piace fare veloce, siamo andati a ballare, siamo andati in locali il sabato, ci siamo divertiti. Sì, ma si poteva fare, no, ma non è così come ci hanno detto, anche perché conosco bene il proprietario, poi ci andavo io un bel spesso, cioè non una volta, almeno 2 volte a settimana lì ci andavo, quindi lo conosco bene, sono 3 stronzate, capito? E guy, che ore sono? Le 11:30, ci inizio a spendere qua che a ritiro il bambino che è ancora davanti alla televisione, che mi ha avuto i dolci. Così fa Marco col computer, se non lo togli sta attaccato, c'è la televisione e i cartoni animati che è il computer. Il computer adesso ha trovato un gioco di carte con i Pokémon, sta sempre attaccato lì. Lascialo fare, già va bene. Voglio che si diverte. Però a certa ora Anna ne ha fatto così in ritardo, adesso lo porto a letto, va. Ma bisogna abbozzare queste cose, Fabri. Non si può farlo se stava sulla tazza pulita. Io devo che tu devi anche fare altre cose, non è che tu fai solo stare al computer o stare alla PlayStation, mi piace non dare queste cose tecnologiche, ci va matto. Lo so, lascialo fare. Ti saluto e già ci sentiamo alle prossime, quando ci siete ogni tanto entro, se permettendo qua e altre cose. Buonanotte già, ci sentiamo. Buonanotte, grazie di nuovo, ciao Fabri. Io insomma ne vado un po' a fare ascolto e mi passo qualche mezz'oretta. Ci sentiamo, ciao. Io ascolto lo puoi fare in 80, però non penso che ti ascolti ben poco con quell'antenna in 80, però qualcosa lì, tutti li sono adesso. Proviamo in 80, no, già hai ascoltato bene in 80, sì, ma tranquillo. Perché la notte i QSO sono in 80, poi oggi che sabato ci sarà movimento, se vuoi sentire QSO locali là in Italia. 80 la notte e di giorno 40. Comunque buonanotte. Sì, buonanotte Fabi. Ma 3.500-3.800 così. 3.600, 3.600, 3.690, 3.600, comunque la frequenza radioamatoriale è che tu vai lì in 80 metri, quella che poi che ci sono i radioamatori sono da 3.500 a 3.800, però dentro nel 3.600 e su intorno lì comunque in genere trovi questo, quelli locali diciamo. Ci sentiamo alle prossime, dai, buonanotte Fabi. Non so se tu fai l'attività adesso, poi vado a farvi un po' di ascolto. Ciao ciao! E anche io voglio fare 10 minuti una prova in 80, ma senza nemmeno uscire, solo a fare un ascolto veloce e poi me ne vado a guardare un po' di TV, dai, notte. Ciao ciao!